L'Acudi Podcast. Dialoghi sul cospirazionismo a partire dal libro di volume 1, L'Acudi Complotto. Edizione Allegre, Roma, 2021. Nona puntata. Abbiamo pensato di dare una forma di dialogo a questa presentazione perché le sollecitazioni, come già diceva la professoressa Morabito, che vengono da questo libro sono veramente quasi infinite. Come forse vedrete, insomma, le mie domande, sollecitazioni, proposte di dialogo riguardano soprattutto questioni, chiamiamole così, di struttura, per così dire, del testo. E per quello che riguarda i contenuti, lascio appunto poi a Vumiglio 1 di entrare più nello specifico laddove lo ritenga opportuno, e naturalmente poi, insomma, ai vostri interventi, anche alle vostre domande, anche la possibilità appunto di entrare più nel merito delle questioni tante appunto di contenuto che vengono fuori dal libro. Allora, io partirei con due elementi paratestuali di questo libro, che mi sono sembrati interessanti come punto di partenza. Uno, la collana in cui questo libro è pubblicato, e poi gli indici. La collana è una collana dell'editore Allegre, di saggistica, Tempi moderni si intitola, e benché nel titolo di questo incontro io abbia usato per definire il tuo testo la formula oggetto narrativo non identificato, che è una formula, insomma, che voi stessi avete come collettivo Vuming inserito nella critica e nella teoria letteraria contemporanea, credo invece che la collocazione in una collana di saggistica sia giusta, perché dà conto di uno sforzo non solo, diciamo così, creativo nell'organizzazione dei materiali, e altresì evidenzia lo sforzo profuso nella raccolta della mole veramente impressionante di documentazione che concorre a costruire il libro. Peraltro, ad un certo punto, pagina 391-392, insomma, tu esprimi un dubbio. Non sto sulla forma testuale, insomma, di questa citazione, di cui poi parleremo. Ecco qui l'inizio. Cosa fatta capo A, dovevo occuparmi della seconda parte, la genealogia transatlantica di Canon, genealogia tematica. Il focus era su morfologia, elementi narrativi, topoi che continuavano a ricombinarsi, genealogia transatlantica perché non si trattava di americanate e c'era tantissima Europa in quella storia. Avevo una mole di appunti soverchiante, sapevo più o meno come metterli in fila se qualcuno mi avesse chiesto di esporre la mia tesi sui processi di lungo corso che avevano portato a Canon, avrei potuto farlo da cima a fondo, avevo riempito pagine su pagine, ma quel che avevo scritto non mi soddisfaceva, troppo saggistico, mi serviva un nuovo reagente, eccetera, eccetera. Va bene? Lo sforzo di ordinare questo materiale, a me, come il romanzo di un'inchiesta, così si intitola la prima parte del libro, a me ha fatto venire in realtà in mente non tanto testi romanzeschi quanto un bellissimo saggio storico a cui credo anche tu tenga molto, cioè I giochi di pazienza, il seminario sul beneficio di Cristo di Carlo Ginzburg e Adriano Prosperi, in cui si racconta proprio una ricerca storica nel suo svolgersi e non semplicemente, diciamo, nell'esposizione delle sue conclusioni, come è prassi appunto della ricerca storica. Gli indici, invece, il secondo elemento paratestuale, sono interessanti perché non riportano solo la struttura del libro e la collocazione delle sue diverse parti, ma l'indice del libro vero e proprio è arricchito all'interno del testo da quelle che io definirei rubriche, le rubriche perché ho nella testa i mini riassunti che aprivano le singole novelle del Decameron, no? E ne davano conto del loro molto in breve del loro contenuto. L'indice dei nomi, ce l'ho anche qui, è addirittura collocato fuori del libro ed è stato pubblicato a parte con il titolo L'elenco telefonico della Q di complotto. Ecco, insomma. Vabbè, allora intanto grazie a tutte e tutti per essere qui e grazie insomma per l'invito e le sollecitazioni. Allora sì, la questione, cominciare dai paratesti è interessante perché ho molto ragionato sui paratesti, ho molto ragionato su quelle rubriche che ho cesellato a lungo, non volevo che fossero solamente dei sommari di ciò che seguiva, dei sommari del contenuto dei capitoli, ma che a loro volta fossero degli oggetti narrativi non identificati. Dentro ci ho messo giochi di parola, calambur, riferimenti nascosti, battute, rime poetiche, cioè che riprendono delle rubriche precedenti, insomma ci sono dei collegamenti tra l'una e l'altra. E per quanto riguarda la costruzione del testo come oggetto narrativo non identificato e il fatto che io mi sia posto al centro di questo, cioè che abbia mostrato la ricerca stessa nel suo svolgersi, cominciamo dal riferimento che hai esplicitato, Ginsburg, che io cito più volte, ma con riferimento a un'altra opera, a Storia notturna. Ginsburg, Giochi di pazienza, ha un ruolo nascosto nel libro, perché a noi venne l'idea di scrivere Q, il romanzo, che poi dovremo parlare anche di quello, dopo aver letto Giochi di pazienza, il seminario sul beneficio di Cristo, il libro che rendeva conto della ricerca collettiva svolta in quel seminario di metà anni 70 all'Università di Bologna, coordinata appunto da Carlo Ginsburg e Adriano Prosperi. All'inizio c'è una dichiarazione di poetica nel libro che dice: di solito quando leggi un libro di storie si fa c'è un'allegoria gastronomica, no? Ti portano il pollo già cucinato a tavola, è inusuale che ti arrivi la gallina ancora viva, starnazzante, con le piume, eccetera. Ecco, questo libro è quella gallina ancora starnazzante, no? E ci aveva molto colpito questa allegoria, diciamo, questa metafora estesa. I temi di quel libro poi sono confluiti nel mega intreccio del nostro romanzo Q, che pare sia poi all'origine di QAnon, quantomeno come premessa, come primo nocciolo della sua narrazione. Raccontare una storia con ogni mezzo necessario è la cosa che noi diciamo sempre, no? È proprio il nostro motto, è la nostra dichiarazione di poetica, raccontare una storia con ogni mezzo necessario, e diciamo sempre che l'accento va su necessario, non va su ogni mezzo, perché se fosse raccontare una storia con ogni mezzo potrebbe essere anche con mezzi tutto sommato prescindibili, superflui, che sono semplicemente così la messa in pratica di un vezzo, di un capriccio autoriale, un divertissement, ho quell'idea lì, mi piace l'idea di scriverlo così, lo scrivo così. No, e noi mettiamo l'accento su necessario perché cerchiamo sempre di compiere ogni scelta a ragion veduta, sempre chiedendoci se servirà a far arrivare meglio la storia, a far capire meglio, che sia una storia che stiamo raccontando in un reportage, che sia una storia che stiamo raccontando in un saggio, insomma in tante forme, o nel romanzo vero e proprio. Di fronte alla messe di materiali appena evocata di questo libro, sono 3 anni di corpo a corpo con una quantità spropositata di fonti di varia natura, quel motto lì è stato la mia bussola, nel senso ho compiuto tutta una serie di scelte non semplicemente per stupire per far inarcare il sopracciglio, no? Come nella dichiarazione di poetica della poesia barocca, no? Ma perché c'era proprio una mia intima convinzione del fatto che sarebbe stato necessario comperlo, no? Quindi dalle cornici oniriche agli esperimenti formali in senso più stretto, tipo appunto togliere la punteggiatura in alcuni capitoli, a ibridare fiction e non fiction, a ricorrere in una certa misura all'autofiction, buttare dentro al calderone tutta una serie di documenti montati con la logica del Tournemann, tutte queste cose avevano lo scopo di rendere meglio l'idea del tema che stavo svolgendo, quindi raccontare meglio la storia. La forma del libro è una messa in pratica del suo contenuto, è il primo tentativo di esperimento nella direzione che a un certo punto è esplicito, no? Per parlare di cospirazionismo, per contrastare in un certo modo, che non è quello solito, il cospirazionismo, bisogna compiere tutta una serie di esperimenti, e io li compio già nel libro stesso in cui ne dichiaro la necessità. Ad esempio, no, il libro è particolarmente allucinogeno, nonostante dica appunto ci sta bene in una collana di saggistica, però è perturbante anche trovarlo in una collana di saggistica, perché è abbastanza, insomma, lisergico, e visionario. Come fai a scrivere un libro su QAnon e addentellati vari senza sbordare nell'allucinatorio, nel visionario, anche per far capire qual è la capacità di presa, di cattura che hanno quel tipo di narrazioni lì? Devi muoverti in quei territori, perché farne una trattazione puramente saggistica, puramente appunto espositiva, argomentativa, non renderebbe in alcun modo l'idea del perché si cade nella cosiddetta buca nel coniglio e si comincia a credere a queste cose. In qualche modo la tua scrittura deve evocare quel tipo di dinamiche, deve titillare in qualche modo le stesse parti del cervello, deve corteggiare la stessa parte dell'anima che viene corteggiata dal cospirazionismo, corteggiata e conquistata dal cospirazionismo. La scrittura sul cospirazionismo deve essere all'altezza della potenza che il cospirazionismo mette continuamente in campo, dispiega continuamente. Quello lì è l'unico modo di far capire diverse cose. Uno, che non esiste la contrapposizione netta i complottisti e noi, perché chiunque di noi in realtà può essere catturato all'interno di quel dispositivo, può seguire gli stessi pregiudizi cognitivi, gli stessi bias, le stesse fallacie logiche che portano a credere a queste fantasie di complotto. Nessuno di noi è in grado davvero di scagliare la prima pietra, perché, come dico spesso, chiunque di noi almeno una volta nella vita ha creduto ad almeno una fantasia di complotto. Non c'è nulla che ti renda automaticamente immune nell'essere istruito, nell'essere progressista, nell'essere raziocinante, niente di tutto questo in realtà ti scherma dalle fantasie di complotto. Allora, per render conto di questo, dovevo anch'io far precipitare lettori e lettrici dentro una buca del coniglio. Però la sfida, che è esplicito nel libro, è quella di mettere insieme incanto e spirito critico, quindi riuscire a farti vedere com'è, farti provare com'è cadere nella buca del coniglio, quindi proporti le stesse sollecitazioni allo stesso tempo, però spiegandoti sempre cosa sto facendo, che è quella poetica che noi chiamiamo il mostrare la sutura, cioè far vedere con quali tecniche operiamo continuamente e come cuciamo i materiali, come li facciamo reagire tra loro, come li facciamo collidere per ottenere quali effetti. Questo viene sempre esplicitato, però in un modo, almeno questo è il tentativo mio e nostro, in un modo che non distrugga l'incanto, cioè che non... sì, beh, adesso magari andando avanti nella conversazione faremo diversi esempi, sì. Però ad esempio, il fatto, tutta la seconda parte, l'inchiesta, il lavoro di inchiesta viene portato avanti, prosegue, ed è un lavoro di genealogia, di narratologia, di morfologia, di analisi comparata di varie leggende d'odio, costruzioni di capri espiatori, fantasie di complotto che sono confluite nella grande singolarità che è QAnon, però tutto questo viene fatto all'interno di un sogno. C'è un lavoro di inchiesta fatto all'interno di un racconto onirico, un sogno che io faccio, tra l'altro un sogno che diventa uno spin-off di un altro romanzo, di un altro libro, che è Il pendolo di Foucault, di Eco. Sono più di 200 pagine di racconto onirico in cui io intrattengo una sorta di dialogo filosofico in cui rendo conto dei risultati della mia ricerca a due personaggi del pendolo di Foucault. All'interno del bar Pilade, cioè uno dei luoghi più importanti nel pendolo di Foucault di Eco. Allora, uno potrebbe dire, vabbè, un vezzo, vabbè, un divertissement, però io l'ho fatto pensando a tutto quello che ho appena detto, al fatto di provare con la stessa scrittura di questo libro a mettere in pratica quello che predico. Ci sono due capitoli, diciamo, di spunti, di possibili direzioni da seguire per parlare di cospirazionismo in modo diverso dal solo smontarne le falsità, mostrarne le illogicità, insomma il cosiddetto debunking, oltre il debunking mostrare la sutura, e poi io cerco di metterlo in pratica, io per primo, scrivendo un libro che deve sì smontare le fantasie di complotto, fare vedere come funzionano, perché funzionano, qual è il loro ruolo sistemico proprio nella nostra società capitalistica, nel nostro sistema dei segni, nella nostra cultura, nell'immaginario, e faccio questo, però allo stesso tempo voglio anche mostrare perché funzionano facendole funzionare, quindi racconto delle storie, delle contronarrazioni che però cercano di intercettare le stesse pulsioni che le fantasie di complotto intercettano. Quindi anche il bisogno di meraviglia e il bisogno di incanto che le fantasie di complotto vanno appunto a sollecitare e a soddisfare a loro modo. Noi abbiamo la scena di Matrix, quella della pillola rossa e della pillola blu, che è perfetta per sintetizzare questo, no? Morpheus mostra queste due pillole a Neo in Matrix e dice: se prendi la pillola blu starai bene, nel senso che continuerai a vivere la vita che hai vissuto fino adesso, convinto che il mondo in cui tu vivi, lavori, ti rilassi nel tempo libero sia quello vero, quindi continuerai come adesso, non ti succede niente. Se invece prendi la pillola rossa starai male, però saprai la verità. Saprai la verità, saprai qual è il vero mondo dietro a questo velo di Maya, dietro questa parvenza di realtà. E invariabilmente chiunque di noi sceglierebbe la pillola rossa. In quel momento tutti noi siamo Neo e tutti noi sceglieremmo la pillola rossa perché vogliamo vedere cosa c'è. Anche perché se prendesse la pillola blu sarebbe già finito il film. Ecco, e noi vogliamo che continui. Allora, è vero che scoprire la verità che sta dietro il nostro mondo da parte del convertito a un culto cospirazionista implica l'orrore, perché quelli di QAnon credono che il mondo sia dominato da una società segreta di pedofili, cabalisti, in fondo sì, perché si chiama cabal, pedofili dediti a rituali esoterici e satanici e succhiatori di sangue, che tengono schiavi milioni di bambini e hanno in mano la politica, hanno in mano l'economia, e questa è una visione orrenda, ma allo stesso tempo è, come si dice in inglese, empowering, perché il fatto di saperla, questa verità, mi pone a un livello più elevato rispetto a chi non la sa o non ci crede. E infatti loro si definiscono red pilled, noi siamo quelli che hanno preso la pillola rossa, e in qualche modo si considerano degli illuminati, ed è anche questa una forma di incantamento, no? Anche se è un incantamento che ha come materia l'orrido, cioè è una realtà spaventosa, è una realtà terrificante, ma io la vedo e questo è fonte di meraviglia. E io lo paragono al sublime dinamico kantiano. Il sublime dinamico è trarre meraviglia da un'estrema paura provata, da una sensazione di impotenza, che però si rovescia in senso di incantamento, di meraviglia, e si può contemplarne la bellezza. Lui faceva l'esempio di catastrofi naturali, tempeste e così, ma si può fare questo esempio anche con le fantasie di complotto. E quindi una scrittura che intercetti questo bisogno di meraviglia, come lo intercetta il cospirazionismo, anche descrivendo delle cose orride, come quelle che descrivo nel libro. Ecco. Allora, alcune cose appunto sulla struttura... Allora, alcune cose sulla struttura del libro, Roberto già le ha dette. È strutturato, diciamo, in due parti, che sono, diciamo, riassunte da una cosa che tu dici. Avevo deciso di adottare un approccio morfologico e genealogico. Prima avevo isolato le caratteristiche salienti di QAnon, le dinamiche più frequenti, i motivi ricorrenti, i personaggi tipo, le scene più immaginate. Poi ero andato a ritroso cercando non l'origine di ciascun elemento, ma la più antica interazione tra il maggior numero di essi in quanto parti di una fantasia di complotto partecipativa legata alla cultura pop. E questa cosa della cultura pop mi sembra particolarmente importante. La struttura del libro, in due parti, è strettamente legata alla cronologia degli eventi occorsi all'autore personaggio, perché l'autore è personaggio del libro, in rapporto con tutto quanto accadeva intorno a lui, dallo scoprire, appunto, come si diceva prima, che il titolo di un vecchio libro di 20 anni prima aveva probabilmente dato il nome all'anonimo Q, no? L'anonimo Q si chiamava Q perché il libro di Luther Blissett si intitolava Q, e questa scoperta è stata fatta nella tarda primavera del 2018, fino appunto alle vicende legate alla pandemia e alla cronaca politica statunitense, compreso l'assalto a Capitol Hill. Faccio presente l'assalto di Capitol Hill, come sapete, e le sue immediate conseguenze. È del 6 gennaio del 2021. Questo libro esce, diciamo, tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, sempre del 2021, quindi capite bene, come dire, anche l'editore che tipo di corsa ha fatto. Ecco, proprio da questo punto di vista ti chiedo, perché la scelta dell'autofiction per trattare di un fenomeno che sicuramente dal punto di vista culturale e politico è così distante da te? Cioè, quali sono gli elementi di, secondo me, sono di empatia e di etica della scrittura che ti hanno spinto in questo libro a ripercorrere anche episodi lontani della tua biografia intellettuale? Dunque, chi scrive è parte in causa, nel senso che è direttamente coinvolto in quanto tirato per la giacchetta da QAnon, appunto dal nome stesso, no? Cioè, noi appunto nella tarda primavera del 2018 veniamo a scoprire dell'esistenza di QAnon, che è nato nell'ottobre del 2017, quindi sono in realtà pochi mesi, però quando noi veniamo a sapere della sua esistenza sta già prendendo piede, è già passato dalle nicchie dei forum dell'ultradestra americana ai social network più mainstream, a YouTube, a Facebook, e si sta già manifestando offline in forma di personaggi che compaiono ai comizi di Donald Trump con dei cartelli con scritto Q, con degli striscioni con scritto Q e cose di questo tipo, no? E chiaramente quella Q per noi è fonte di, anche lì, forte perturbazione, no? Nel senso che è proprio l'Unheimlich freudiano, è qualcosa che è familiare ed estraneo al tempo stesso. Veniamo a sapere che nell'ottobre del 2017 un anonimo ha cominciato a lasciare enigmatici messaggi, commenti su un forum frequentato dall'alt-right americana, 4chan, e nella narrazione che ne è scaturita, quell'anonimo è un insider, una persona molto ben inserita dentro la struttura di potere americana e a alti livelli del governo federale, fa parte del mondo dell'intelligence, e pian piano sta sciorinando delle informazioni riservatissime su quanto sta per accadere. Ha avuto questo compito di preparare una comunità di illuminati, no? Di patrioti, di rivoluzionari, insomma, a quanto sta per succedere, e quel che sta per succedere è the storm, questa tempesta e questa battaglia campale, questo scontro finale tra le forze del bene che sono capeggiate da Donald Trump e le forze del male che sono questa società segreta di pedofili, vampiri, satanici e quant'altro. E dopo la vittoria di Trump contro la Cabal, come viene chiamata, ci sarà The Great Awakening, il grande risveglio, appunto una società pervasa da questa luce, no, del bene sotto il benigno potere pastorale, per dirla alla Foucault, no, di Donald Trump. Noi abbiamo scritto un romanzo che è uscito nella primavera del 1999 in Italia, poi è stato tradotto in mezzo pianeta, è uscito anche negli Stati Uniti nel 2004, dove un anonimo che si firma Q manda dei dispacci, anche lì con molte citazioni bibliche, come nei messaggi che lascia questo misterioso anonimo su 4chan, per rivolgersi a una comunità di illuminati, di rivoluzionari, in quel caso sono i contadini insorti nella Germania del XVI secolo, la guerra dei contadini del 1524-1525, per dire che incombe una battaglia tra il bene e il male che si svolgerà nella piana di Frankenhausen in Turingia e che lì appunto dopo che le forze del bene avranno vinto ci sarà un grande risveglio. Insomma, noi quando veniamo a sapere di questa cosa rimaniamo un attimo perplessi, è una cosa che ci capita ultimamente, no? Andiamo a vedere delle cose, scopriamo delle cose e ci suonano molto familiari, no? Ecco, ed è da lì che cominciamo a interessarci di QAnon e io me ne interesso a tal punto che decido di scriverci un libro sopra che viene... Roberto, qui ha fatto un corso, per esatto, il nostro corso di laurea, proprio su queste tematiche, 3 anni accademici fa, insomma, sì, che è stato, ha avuto pochi studenti ma molto affezionati e che ancora ricordano, insomma, quella bella esperienza di insegnamento che è stato fondamentale per costruire il libro, no? Quindi nello scrivere il libro dovevo render conto, sì, mi sembra il caso del vostro libro che è diventato, diciamo, il nucleo del primo nucleo, insomma, comunque di questa serie che poi la teoria di quella nonna ricalca quasi il caso del povero Joly, che il cui diavolo sì, è diventata la base dei protocolli di Fion, sembra proprio la stessa cosa. Infatti ne parlo perché effettivamente è uno schema ricorrente il passaggio dalla fiction alla fantasia di complotto, cioè la fiction che sborda dai confini del libro in cui è contenuta per andare ad alimentare delle fantasie di complotto. Sì, sì, certo, cambiandole di segno, come è successo esattamente anche in questo caso qua. No. Nel momento in cui vado a scrivere il libro, io devo render conto di questo mio coinvolgimento e del perché, di qual è la mia particolare postura, no? Quella di un coautore del libro che, suo malgrado, in qualche modo ha avviato questa catena di riferimenti, questa semiosi impazzita, no? E quindi mi devo mettere, devo rendere conto di questa mia postura raccontando del perché mi sto occupando di QAnon. Tra l'altro c'è anche un altro livello, perché oltre al riferimento a Q, a noi sembra di cogliere anche altro, nel senso che QAnon si sviluppa come una mega fantasia di complotto particolarmente barocca, iper dettagliata, piena di sottotrame, di ramificazioni, però al suo centro ha una scena molto semplice, una scena madre molto semplice, un mitologema, lo definiamo noi, no? E questo mitologema è quello del cosiddetto Satanic Ritual Abuse, abuso rituale satanico, che è una leggenda metropolitana, è stata dimostrata come leggenda metropolitana, ma ha fatto un sacco di danni anche in Italia, perché è stata sposata come teorema giudiziario da varie procure, ha portato in galera innocenti, eccetera. Questo mitologema è praticamente quello di un rituale satanico, di una messa nera, durante la quale vengono violentati dei minori. ed è nata nel crogiolo degli anni 70 post Watergate, ne racconto la genesi di questa cosa, ed è esattamente al centro di QAnon. In fondo QAnon, andando a riassumere, è questa roba qua. Dopo tutto il resto sono svariati strati, ma se andiamo a vedere, se spogliamo la storia di tutti i suoi ammennicoli, è questa roba qua, è l'abuso rituale satanico, in questo caso compiuto da Hillary Clinton, da Joe Biden, da Tom Hanks, da tutti questi potenti membri della Cabal. E noi ci siamo occupati di abuso rituale satanico negli anni 90, quando ancora ci chiamavamo Luther Blissett e avevamo appena cominciato a scrivere Q. Cioè, mentre noi scrivevamo Q, conducevamo anche una controinchiesta sul tema dell'abuso rituale satanico per tirare fuori di galera tre innocenti. E il famoso caso dei bambini di Satana, che si è svolto a partire dal 1996 a Bologna, e contiguo e secondo noi collegato all'altro caso famoso, anche più famoso, che è quello dei cosiddetti diavoli della bassa, di cui si è occupato Pablo Trincia nell'inchiesta Veleno, che prima è partita come podcast, poi un libro per Einaudi, adesso anche una serie TV su Amazon Prime. Ecco, secondo noi il caso dei bambini di Satana ha contaminato l'altro, ha avuto un'influenza su quell'altro. Ad ogni modo, noi, per poter dimostrare che queste tre persone che erano in galera a Bologna erano vittime di un abbaglio collettivo, dovevamo raccontare a un pubblico italiano che era completamente digiuno di questa tematica che cos'era l'abuso rituale satanico. Quindi già all'epoca studiammo testi americani, paper, documentazioni, ordinavamo cose, non era così facile avere cose dall'America come oggi. 25 anni fa non c'era Amazon, non c'erano tutte queste cose, però riuscimmo a procurarci un sacco di cose e a farne appunto la base teorica della nostra controinchiesta. Quando vediamo che qualcuno molto evidentemente, secondo noi, sta citando un nostro libro, Q, inoltre sta costruendo una narrazione che al proprio centro è esattamente l'abuso rituale satanico su cui noi abbiamo fatto controinchiesta, cioè ci sono due livelli di coinvolgimento nostro, no? E allora tutto questo diventa materia stessa del mio libro. E hai parlato di autofiction, no? E qui ci sono due diversi livelli di autofiction, no? In realtà noi abbiamo una posizione piuttosto estrema sull'autofiction. Secondo noi, qualunque testo dove un autore parla di se stesso è già autofiction, anche se quello che racconta è tutto fattualmente vero, perché comunque la messa in ordine, la scelta di che cosa raccontare, la messa in ordine degli eventi, il particolare registro scelto e tutte queste cose qua già fanno sì che quello lì sia un personaggio. No, cronologicamente parlando non fa una piega. No, ecco, no, quindi anche se non tutti sono disposti a seguirci lungo questa china, perché come autofiction, tutto quello che ho raccontato mi è successo davvero, sì, ma il fatto stesso che tu l'abbia disposto in quel modo, abbia tornito gli episodi, cioè volendo, Belpoliti in fondo ha detto che anche se questo è un uomo è autofiction, cioè anche se è tutto vero quello che racconta, ma la scelta di come raccontarlo, in che ordine, no, su che cosa porre l'enfasi e cosa invece è anche... Allora. E quindi la prima... Ovviamente c'entrano anche... delle periodizzazioni della critica letteraria, ovviamente, perché quando certo. È uscito Se questo è un uomo, queste idee proprio no, non, per non niente. Esistevano, quindi chiaramente quella era memorialistica. Non era considerato non letterario. Esatto, ancora prima, cioè non sì. Era neanche considerato, figurati, non era uno scrittore. No, era un reduce esatto, che raccontava sì. Quello che gli era successo, no? Quindi all'inizio, infatti, esatto. Poi all'inizio Einaudi gli rifiuta di pubblicare il libro, così. La prima parte del libro, quella intitolata Romanzo di un'inchiesta, è anche l'ouverture, cioè la parte che c'è subito prima, è autofiction in questo senso, nel senso che io non racconto nulla che non mi sia capitato davvero, però è autofiction perché a seconda di cosa scelgo di raccontare e cosa omettere, comunque diventa una narrazione che è già fittizia di suo, cioè quello lì non sono già più io, no? È il personaggio che dice io e fa le veci dell'autore. Invece nella seconda parte è autofiction in senso vero. Proprio vero, più stretto, perché io quel sogno lì non l'ho fatto davvero. Non l'ho fatto davvero e non è che durante quel sogno mi sono svegliato per andare in bagno e poi quando sono tornato l'ho ripreso esattamente da dov'era e così, cioè e poi e quel mio risveglio, chiaramente il mio risveglio finale è immaginario e quant'altro. Quindi quello invece è autofiction in senso più stretto. e le ho tenute tutte e due. Diciamo, è autofiction anche quella nella parte più, diciamo, virgolette, saggistica, nel senso che abbiamo appena detto. Invece nella seconda è proprio lì, è conclamata, è proprio autofiction conclamata. Però appunto ho scelto l'autofiction, lo stare dentro la narrazione, perché in qualche modo dovevo farlo, era una questione deontologica, anche di trasparenza, no? In questa apparente opacità, no? Che c'è l'onirico, eccetera, però in realtà sono molto trasparente, dico io sono parte in causa. Cioè dentro questa storia ci sto dentro a pieno diritto, non posso fingere di guardarla da fuori, perché sono stato tirato dentro, da QAnon stesso. Dicevo, andiamo su delle figure di riferimento importanti. Io ne ho isolate tre, ma credo che siano le più significative: Umberto Eco, Furio Iesi e Nanni Balestrini, che sono appunto, secondo me, tre presenze centrali nell'impostazione proprio concettuale del tuo libro. Danno dei concetti in modo ovviamente diverso, ma insomma tutte e tre. La seconda parte dell'arco di complotto, appunto, come già abbiamo detto, è costruita come un dialogo tra l'autore personaggio e due personaggi tratti dal pendolo di Foucault. Ma a questo libro, cioè al pendolo di Foucault, tu dedichi anche un capitolo della prima parte, intitolato Il libro delle metastasi, e dici questo: il romanzo di Eco non era una parodia del cospirazionismo, come alcuni critici superficiali avevano pensato, inciso mio, e che in realtà pensano ancora oggi di Eco, è una cosa veramente incredibile, no? Ma un apologo su quanto fosse vano, controproducente e anche pericoloso tentare la via della parodia. Cioè, se si vuole combattere appunto il cospirazionismo, è inutile parodiarlo, no? Bisogna entrarci dentro, entrare dentro alla sua logica, no? E capirne esattamente i meccanismi. Iesi, con i suoi studi sul mito e sulle macchine mitologiche costruite dalle destre vecchie e nuove, e ritornano anche queste più volte nel libro. Mentre Nanni Balestrini ti offre uno stile per la scrittura degli ultimi, ma sicuramente non solo lo stile, insomma, no? Per la scrittura degli ultimi due capitoli da te composti, cioè il 22esimo, La virulenza illustrata, che rinvia a un titolo al titolo di libro di Balestrini, La violenza illustrata, e il capitolo 23, Burnout. Questi capitoli sono scritti senza punteggiatura, fra l'altro se li leggete vi accorgerete forse, diciamo, alla fine della seconda strofa lassa, che sono scritti senza punteggiatura, perché non sembra in realtà, cioè hanno un ritmo che veramente, come appunto in Balestrini, soprattutto in alcune cose, non in tutte, è un ordine. Non in tutte, io mi sono ispirato soprattutto agli invisibili. In un discorso appunto che procede per, come dire, chiamiamo le paragrafi, strofe, Balestrini le chiama lasse, no? Che sono le antiche strofe della poesia medievale, che sono di lunghezza insomma variabile, variano da una ventina di righe più o meno fino insomma anche ad una pagina e qualcosa di più. Perché di queste scelte? E poi una domanda proprio al limite: chi è Valentina Belbo nella seconda parte del romanzo? Che funzione ha? Perché non è come la Lia del pendolo di Foucault. No. Ha un'altra funzione. Okay, un'altra funzione. È un personaggio del pendolo di Foucault che nel pendolo di Foucault non c'è. Che non c'è. Che esatto. Mi invento io. Che mi invento io proprio per questioni. È una cugina. Per questioni di genere. Sì, esatto. È la cugina di Jacopo Belbo. Vabbè, dunque, quando abbiamo scoperto che forse appunto noi eravamo gli inavvertiti originatori della quantomeno dello schema con cui QAnon si è presentato, no? Ci siamo chiesti se quella persona che agli albori di QAnon ha mandato quei dispacci e poi è scomparsa, no? Perché quella persona lì che si firmava qui all'inizio pare sia scomparsa, nel senso che diverse analisi e inchieste hanno dimostrato in maniera abbastanza, insomma, convincente che quella persona lì ha scritto solamente nel primo mese e mezzo, e poi è cambiata la mano quando le cosiddette gocce di Q, i suoi messaggi sono passati da Forchan a Eichan, è cambiato proprio l'autore, proprio la cifra stilistica, tutto qua. Un'analisi stilometrica. Un'analisi stilometrica fatta da una compagnia svizzera, si chiamano Orf Analytics, che adesso hanno annunciato che ne hanno fatto un'altra ancora più approfondita e stanno per uscire con nuovi risultati. E io ho fatto in tempo a citare la loro prima nel libro. Noi ci siamo chiesti, ma qual era il fine di costui o costei? Cioè, questa persona che si è firmata Q con un probabilissimo riferimento al nostro romanzo, forse era una burla, o quantomeno una manifestazione di cazzeggio, come lo chiamano su 4chan, shitposting, no? Si può tradurre tranquillamente cazzeggio, no? Shitposting. E il cazzeggio su 4chan è compulsivo, cioè un cazzeggio proprio forzoso, cioè che non, senza tregua, proprio non si interrompe mai, anche sulle cose più terribili. E abbiamo detto, forse è un tentativo maldestro di fare guerriglia mediatica alla Luther Blissett, no? Cioè, nel senso, inoculi del falso all'interno di un ambiente pronto a recepirlo, ci fai cascare tutti in quella trappola, dopodiché a un certo punto rivendichi e dici in realtà l'avevo inventato io, solo che lì uno non l'ha rivendicato nessuno, anche perché nel frattempo, se fosse partita con quell'intento, nel frattempo era diventata, vedete che cioè, altro che rivendicare, è meglio far finta di nulla, perché veramente hai prodotto altro che mostro di Frankenstein, no? Hai scatenato in giro per il mondo. Ma abbiamo pensato, forse questa persona voleva dimostrare che i sostenitori di Trump crederebbero a qualunque cosa, che è vero, tra l'altro, c'è neanche bisogno di fare delle burle. Ecco, già credere che Donald Trump è un genio, già credere che cioè, è il capo, insomma, lasciamo perdere. Ecco, e quindi hanno proposto una parodia di fantasia di complotto. Una parodia di fantasia di complotto per dimostrare che però è una strategia fallimentare, e l'aveva già dimostrato Eco nel Pendolo di Foucault con quell'apologo, no? Perché è esattamente la trama del Pendolo di Foucault. Belbo, Diotallevi e Casabon si inventano una parodia di fantasia di complotto, di singolarità cospirazionista, perché poi quello che loro chiamano il piano è un convergere di tutte le fantasie di complotto mai raccontate, mai credute, vere. E loro lo fanno appunto per cazzeggio, non esistono ancora i social network, ma è un cazzeggio a livello di ufficio, sono in questa redazione di una casa editrice milanese e cominciano questo gioco, solo che poi questo gioco gli scappa di mano e la fantasia di complotto che loro hanno inventato viene creduta vera da altri, con tutto poi, insomma, lo scivolare sul piano inclinato che questo comporta, e con le conseguenze anche gli esiti tragici, e non faccio spoiler del libro, e non ho detto nulla che non si legga normalmente in giro, ecco. E quindi gioco forza, ho ripreso in mano il Pendolo di Foucault, l'ho riletto dopo tanti anni e mi sono reso conto che conteneva già molto del nostro presente. All'epoca è un libro che non fu capito granché, quando uscì nell'88 fu, secondo me, platealmente frainteso, fu considerato nella migliore delle ipotesi appunto un divertissement di Eco per far vedere quant'era erudito, e nella peggiore diceva ma di cosa parla sta roba qua, capito? Sembrava che non fossero all'ordine del giorno quei temi, e invece lo sono diventati in maniera clamorosa. Tra l'altro lui anticipava addirittura il ruolo della rete, come spiego nel libro, no? Perché c'è questo, siamo a inizio anni 80 e per la prima entrano i primi personal computer negli uffici. E c'è tutto. E il mio maestro a Sor Rosa fu il primo a notare che. Esatto, esatto. E nella recensione molto articolata uscita su Repubblica di A Sor Rosa del Pendolo di Foucault, fu il primo a far notare la centralità come personaggio. Abulafia. Sì. Abulafia prende il nome da un cabalista ed è il nome del computer di Belbo. E anche se non ci sono ancora i modem, le connessioni via modem, non c'è ancora niente di tutto questo, Abulafia è rappresentato come collegato alla rete universale della sapienza, no? E quindi c'è già internet in un certo modo, no? È veramente un libro pazzesco da quel punto di vista lì, letto oggi, no? E quindi ne ho fatto proprio un caposaldo della mia analisi. Perché non funziona poi la parodia di complotto, no? La parodia di una fantasia di complotto, perché non può funzionare metterla in caricatura? Perché parodia e caricatura e satira si basano sostanzialmente su un unico movimento, no? Andando proprio a, che è quello dell'eccesso, dell'esagerazione. sia la satira, sia la caricatura, sia la parodia prendono degli elementi dell'oggetto di cui si stanno occupando e ne esasperano alcuni tratti. Appunto, se disegno una caricatura di qualcuno che magari ha il naso un po' pronunciato, gli farò una vera e propria proboscide. È tutto basato sull'esagerare alcuni tratti. Ma se qualcuno crede che Joe Biden, Hillary Clinton, Tom Hanks e svariati altri personaggi del mondo dello spettacolo e della politica americani tengano prigionieri sottoterra a una profondità di 10 km dentro basi militari segretissime milioni di bambini, che ne vengono rapiti 800.000 all'anno, secondo che non solo negli Stati Uniti, cifra inventata di sana pianta, e ogni giorno quei bambini vengono seviziati e violentati di modo che il loro sangue sia saturo di adrenalina. Quel sangue poi viene ciucciato dai membri della Cabal perché, essendo saturo di, loro dicono, di adrenocromo, ha un forte potere rinvigorente e ringiovanente. E quindi per rimanere per sempre giovani e vigorosi, questi membri della Cabal bevono il sangue di questi bambini tenuti schiavi sottoterra. Hillary Clinton, non contenta di questo, fa anche delle feste a casa di Marina Abramovic in cui bevono insieme mestruo, latte umano e cose di questo tipo. A combattere contro questi qua è il figlio primogenito di John Fitzgerald Kennedy, morto in un incidente aereo nel 1999, ma in realtà l'incidente era simulato e lui è entrato in clandestinità per combattere contro la Cabal. Allora uno dice: se c'è gente che crede a tutta questa roba qua, ma che parodia puoi mai fare? Cioè, cosa vuoi esagerare? Allora, è impossibile essere eccessivi in questo campo, perché qualunque cosa verrà creduta vera, qualunque parodia, qualunque caricatura verrà immediatamente cooptata e integrata all'interno della singolarità cospirazionista in corso in questo momento, no? E quindi è un gioco che non va giocato, molto semplicemente. La strada non può essere quella di ridere, di perculare, come si dice oggi, no? Di schernire queste persone e le loro credenze, perché cioè vai veramente su un terreno in cui fai lo stesso gioco del cospirazionismo e non fai altro che portare carbone alla fornace, ecco, che continuerà a bruciare a pieno regime. Tu, convinto di aver prodotto chissà quale critica perché hai preso in giro eccetera eccetera, in realtà sei oggettivamente complice del meccanismo che continua ad autoriprodursi, a replicarsi, e così. E quindi ho messo eco. Allora, ho appena parlato di macchine, e qui è fondamentale Furio Iesi, che ha descritto le credenze in questo tipo di mitologie in termini macchinici, proprio di macchine, che è una cosa che c'era molto nel post-strutturalismo, no? Perché Deleuze e Guattari, ad esempio, descrivono tutto in termini di macchine, di concatenamento, eccetera, un po' nel linguaggio figurato dell'epoca. Iesi però ne fa un vero e proprio concetto molto preciso, quello della macchina mitologica, no? Dice: non esiste davvero il mito, nessuno saprebbe definire che cos'è il mito. Infatti, se uno va a vedere nell'enciclopedia, ha decine e decine di possibili definizioni la parola mito, e noi stessi nella nostra lingua parlata quotidianamente usiamo mito in tantissimi modi diversi. No, ma quello lì è solo un mito, ma sei un mito, cioè, capito? Mito vuol dire veramente tutto e niente. È un'idea senza parole, avrebbe detto Iesi, no? È qualcosa che non sapresti spiegare davvero, non sapresti inchiodare con una definizione. Quindi lui dice: non si dà il mito è qualcosa che è continuamente evocato da una macchina culturale che serve solo a quello, a evocarlo, che lui chiama la macchina mitologica. Lui dice che il mito è qualcosa che sta dentro un vano all'interno della macchina, ma se uno aprisse dentro non c'è nulla. E dice: questa è la definizione di mito, no? E funziona quando parli di fantasia, di complotto, di cospirazionismo, questa roba qua, no? Perché in termini di macchina ti permette di poter descrivere dei funzionamenti, degli algoritmi, che è quello che in realtà faccio, no? Qual è l'algoritmo di una fantasia di complotto? Algoritmo nel senso di sequenza di istruzioni che vengono seguite. Si arriva a credere a una fantasia di complotto perché si segue una sequela di istruzioni che ti vengono date senza che tu nemmeno te ne accorga, una sequenza algoritmica al termine della quale tu sei convinto di quella roba lì. Ok, e quindi mi funzionava bene Iesi. Iesi, tra l'altro, è evocato come vero e proprio personaggio della fiction del sogno, perché quando io nomino Iesi a Belmo, gli dicevano: lo conosco, è un collega, faceva l'editor alla UTET e roba così. No, perché effettivamente gli anni sono gli stessi, tutte e due a Milano, uno è un personaggio inventato da Eco, l'altro è esistito davvero, ma ha fatto in modo che si conoscessero, no? All'epoca però si era ritirato in campagna, Iesi, infatti lo dicono. Ma sì, so che adesso si è ritirato in campagna, vicino a Novara, eccetera. E poi c'è Balestrini. Se ho reso omaggio a Eco, potevo ben rendere omaggio anche a Balestrini, erano tutte e due nel gruppo 63, ok? Tutte e due avevano cominciato all'interno della Neo Avanguardia, che disprezzava la forma romanzo, e tutte e due sono diventati famosi per romanzi che hanno scritto, però scritti in un certo modo, no? Quindi tenendo conto della critica al romanzo, con esiti formali diversissimi tra loro, Eco e Balestrini, però tutte e due nello scrivere romanzo hanno in qualche modo tenuto conto della critica al romanzo che il loro movimento aveva espresso in precedenza, no? E quindi sono dei romanzi che sfidano se stessi continuamente, no? Eco con il continuo affastellarsi di materiali, di citazioni, di giochi interni, eccetera. E invece Balestrini, andando proprio ad alterare la sintassi, no, della lingua con cui i romanzi sono scritti di solito. Questa cosa del togliere la punteggiatura non l'ha fatta solo Balestrini, ovviamente, no, certo. Okay. Però lui la fa in un certo modo e con determinate finalità, perché se vogliamo vedere, nel corso del Novecento altri hanno tolto la punteggiatura in altri modi, Joyce, ma anche Philippe Sollier, nei suoi romanzi sperimentali degli anni 60, tipo Ash, sono scritti completamente senza punteggiatura, e Roland Barthes scrisse, no, di questa cosa dell'assenza di punteggiatura in quei libri lì, però lì non c'era nemmeno una trama, non c'era niente. No, era proprio una disarticolazione totale. Infatti è interessante che Barthes dice: leggendo questi libri di Sollier senza punteggiatura, vediamo che scompare la frase, ma forse la frase è qualcosa di arbitrario che noi imponiamo alla lingua. Noi quando parliamo quotidianamente non è che facciamo delle frasi, no? Diceva che, letta così, è un po' strana, però effettivamente noi quando parliamo interrompiamo una frase a metà, ripartiamo da lì, cioè quando parliamo molto spesso delle vere frasi compiute non le diciamo, o perché diamo per scontato una cosa che stiamo per dire. Era quella roba che Guzzanti, quando faceva il poeta, Brunello Robertetti, no? Ecco, che non finiva i versi perché diceva, come dire, hai già capito come ha finito. Ecco, quindi quando ho letto questa cosa di Barthes mi è venuta in mente sta roba, no? Effettivamente la frase nella sua compiutezza è qualcosa che molto spesso noi non usiamo, diamo per implicita, interrompiamo, riprendiamo quando ci pare, facciamo gli anacoluti, la disarticoliamo e ci capiamo però. Ecco. Balestrini però fa un'altra operazione, perché le frasi ci sono, le sai distinguere. Balestrini vuole rendere la concitazione, la frenesia e la violenza degli anni che sta raccontando, quindi dall'autunno caldo, le lotte dell'autunno caldo del 69, quindi lotte operaie, invogliamo tutto, la violenza diffusa, insomma, degli anni 70, violenza sia sistemica sia violenza di piazza, nella violenza illustrata, ha la violenza del carcere speciale, negli invisibili, ha la violenza delle curve, nei furiosi, cioè lui fa, diciamo, violenza alla sintassi anche per rispecchiare questa violenza che sta raccontando, ma poi anche perché lui usa fonti orali. Il metodo di Balestrini è quello tipico di intervistare a lungo determinati soggetti e registrare, far trascrivere e poi lavorare di montaggio su quelle robe lì. Però appunto si pone il problema, un problema prettamente da poeta, che magari un prosatore puro non si sarebbe posto. Cioè, io se impongo a questo magma una sintassi normale, la punteggiatura canonica e l'organizzazione della pagina normale, in qualche modo ne tradisco lo spirito, perché sono delle testimonianze concitate, mi sono state fatte durante conversazioni fiume al registratore, e quindi si inventa questa cosa qua di togliere completamente la punteggiatura e strutturare il flusso in strofe, in lasse, no? Perché le lasse poi sono tipiche di un poetare orale, tra l'altro, no? E sono delle mnemotecniche anche, no? Tu, di ricordarti dei poemi a memoria perché li strutturi in lasse, perché c'è la lassa, quindi imparo prima a memoria questa lassa, poi quella dopo, eccetera. Allora, nel momento in cui dovevo descrivere l'accelerazione vertiginosa degli eventi che c'è stata nel 2020 tra la pandemia, le elezioni presidenziali americane, le insurrezioni urbane di Black Lives Matter negli Stati Uniti, l'esplosione di QAnon anche in Europa e il fatto che QAnon ha inglobato fantasie di complotto sulla pandemia e sulla gestione pandemica, cioè io praticamente avevo progettato di fare due capitoli su questo e ho detto come faccio a far stare tutta questa cosa in due capitoli, non è possibile, però cioè, ho un libro che rischia di esplodermi tra le mani, rischia di diventare 2000 pagine, qua devo pormi anche questo problema, no? E mentre me lo ponevo è successo Capitol Hill, cioè il 6 gennaio del 2021 io sto scrivendo sconnesso a tutto e mi arriva su, cioè non proprio sconnesso a tutto ma sconnesso ai media, diciamo su Telegram, mi arriva un messaggio di un amico valsusino, un OTAV, con una foto del tizio con i piedi sulla scrivania di Nancy Pelosi con scritto stai un po' esagerando con il prelancio del tuo libro. Io chiaramente cado totalmente dalle nuvole, vado a vedere, apro il primo sito di news che trovo e sta succedendo Dio. Allora da quel momento lì seguo tutto in diretta con i canali americani eccetera e scrivo subito un messaggio all'editore, ad Allegri, dicendo mi devi dare un altro, io stavo per consegnare, mi devi dare un altro mese perché questa cosa va integrata, è proprio il perfetto finale, proprio, cioè proprio si chiude proprio tutto il cerchio. E allora avevo un ulteriore, devo anche raccontare questo in quei due capitoli, ma come faccio a rendere poi anche proprio l'idea di come questa cosa mi ha travolto, no? Mentre la scrivevo. Allora ho pensato, ho detto ci vorrebbe Nanni Balestrini, ho detto beh facciamola la Nanni Balestrini. Allora mi sono andato a ristudiare bene come scrive lui, appunto ho usato, anche se i titoli che cito sono La violenza illustrata e Blackout, in realtà non mi ispiro a quei due libri lì, mi ispiro a, di più agli Invisibili. Gli Invisibili è stato, è quello che mi ha dato il ritmo, il fraseggio, il respiro giusto e quindi dopo ho buttato lì tutto il materiale che avevo scritto in quella maniera, ho anche integrato le citazioni dentro, no? Perché ad un certo punto, senza che ci siano virgolette, senza che ci sia nessun segnale di questo, partono delle citazioni che però alla fine hanno la nota. E poi nelle note al capitolo c'è scritto da qui fino a qui è questo testo qua, sì, cioè sì, quindi sì. Esplicito le cose, però in buona santa fattoria. Poi è successo che quando è uscito il libro sono arrivate delle mail alla casa editrice dicendo volevo segnalare un refuso, sì. Dai capitoli 22 e 23 sono saltati tutti i punti e le virgole. Allora all'inizio, no, con pazienza, Pietro di Allegri rispondeva no, è voluto, all'inizio c'è scritto ci vorrebbe Nanni Balestrini, scrive senza punteggiatura, eccetera. Però continua ad arrivare. Ci sono anche due recensioni su Amazon del libro dicendo bellissimo, però la mia edizione per Kindle ha un problema di formato, è saltata tutta la punteggiatura. Ora, non esiste un refuso del genere, è okay. Tecnicamente impossibile, non c'è un comando che dice selezioni su due capitoli, togli tutta la punteggiatura. Però, però è perché ormai siamo anche abituati ad una scrittura utilitaria, anestetizzata, sì. E comunque quasi tutti quelli che hanno fatto notare la cosa avevano comprato l'ebook. E io ho una teoria al riguardo, La lettura su ebook abbassa l'asticella, nel senso che tu non ti aspetti certe cose, te le aspetti meno che su carta e soprattutto la lettura che hai sull'ebook è già una lettura connessa, soprattutto se hai un Kindle, no? Perché tu leggi, puoi vedere le sottolineature degli altri, è tutto aperto, spalancato e quindi mentre sei più disposto a interrompere la lettura per protestare, per scrivere, oh ma qua sono saltati i punti. Invece su carta uno è immerso in quella che è stata chiamata the literary mind, no? La predisposizione a essere immersi nella lettura, che è una cosa, è una cosa che tra l'altro in natura non esiste. Noi in realtà come specie ci siamo evoluti grazie a un'attenzione soffusa su più cose, perché dobbiamo stare attenti ai predatori, così, eccetera, eccetera. Quella che è stata chiamata appunto la mente letteraria l'abbiamo acquisita dopo, la possibilità di focalizzare su un solo compito è una cosa che sarebbe antievolutiva per noi, che ci siamo proprio costruiti noi. E però su carta è più facile, su ebook è più difficile essere assorbiti perché sei comunque con un dispositivo in mano, sei comunque predisposto in un'altra maniera. Allora chi legge su carta vede che all'inizio non c'è punteggiatura, dice, ma cos'è sta roba? Però va avanti, si fida e dopo un po' capisce. Sui book si interrompe subito e scrive, ma cos'è sta roba qua? Insomma, io ho pagato! e così. No, ma questo è vero perché io ho comprato il libro e l'avevo letto la prima volta su cartaceo. Poi quando volevo rileggerlo, insomma, per il nostro incontro, l'ho caricato anche su ebook, ma non ci riuscivo, non era possibile, diciamo, fare il lavoro che volevo fare su ebook, insomma, era un'altra cosa, insomma. Senti, salto la domanda perché già stiamo, una domanda sulle definizioni, perché tu all'interno, mi senti Mattia? Insomma, hai anche l'urgenza di dare tante definizioni, sono partendo già, insomma, dalle definizioni di QAnon che sono presenti nell'ouverture, e poi anche un'altra serie, insomma, che vengono addirittura in qualche modo evidenziate tipograficamente, insomma, con dei caratteri speciali, ne dico qualcuno, insomma, mi sembra che non mi siano saltate: singolarità cospirazionista, cospirazionismo, complotti reali, complotti fantastici, ipotesi di complotto, fantasia di complotto, addirittura un intero capitolo si intitola cult, setta e controllo mentale, no? Le definizioni narrazione tossica, narrazio suprematismo, eccetera eccetera. Quindi, virocentrismo esatto, no? Che è l'ultima ma non meno importante. L'idea era appunto di chiederti, magari se rispondi brevemente, perché le ultime due domande ci tengo. Allora volevo che questo libro fosse anche una cassetta degli attrezzi, quindi questi attrezzi ho dovuto fare un inventario, no, di quali tirar fuori dalla cassetta e quali lasciare perché necessari. A un certo punto mi sono reso conto che certi attrezzi non c'erano perché dovevo costruirli io. Cioè, è fuori di metafora, dei concetti, ho dovuto creare dei concetti, perché per poter portare avanti l'analisi e il ragionamento, ma anche il racconto stesso, avevo bisogno di alcuni concetti che però nel dibattito consueto sul cospirazionismo non ci sono. E ci sono dei concetti che secondo me sono problematici, ad esempio teoria del complotto, per me è un concetto problematico, poco spendibile, ma è quello che viene usato sempre, ma che contiene un'ambiguità insanabile al proprio interno, contiene più ambiguità in realtà, che non sto qui perché devo rispondere brevemente nel libro. No, ma perché le spiego. Non voglio togliere. Sì. Nel libro le spiego. E quindi ho scisso il concetto, ho smembrato teoria del complotto dividendo tra ipotesi di complotto e fantasia di complotto. E così ho fatto anche, ad un certo punto avevo bisogno di alcuni concetti tipo narrazione diversiva, no? Io spesso uso narrazione diversiva e come Wu Ming in questi anni abbiamo spesso usato un concetto di narrazione tossica, ma ci siamo accorti di non averlo mai definito in maniera precisa, quindi ho detto, abbiamo fatto una riunione su questo, alcune parti del libro sono scritte collettivamente, alcune definizioni le abbiamo scritte collettivamente, ho detto, sentite, facciamo una riunione qui, facciamo un atto in brainstorming per scrivere una definizione inequivoca proprio di che cos'è una narrazione tossica per noi, e così abbiamo fatto e l'ho messa dentro, ma era proprio necessario creare quei concetti perché fossero gli attrezzi della famosa cassetta da usare per parlare di cospirazionismo. Grazie. No, scusami se ti ho chiesto di rispondere brevemente, ma perché appunto stavo guardando un po' allora e queste ultimissime due domande. Allora, nel libro, forse come un po', diciamo, contraltare di tanti contenuti angoscianti, mi sono detta, c'è tanta musica, tante canzoni. Per me la più sorprendente è trovare appunto Luglio di Riccardo Del Turco, Paracitata, e altre, insomma, soprattutto Peppino Gagliardi, degli anni 60 profondi. appunto tanti riferimenti impliciti sicuramente mi sono scappati, ma insomma poi ce ne sono anche tanti espliciti, soprattutto nella seconda parte, come sottofondo musicale che esce da uno strumento datato come quello della filodiffusione, no? nel bar Pilade durante il dialogo sogno. E questi elementi appunto di musica, così come quelli del cinema, no? Prima abbiamo parlato di Matrix, sono parte secondo me di quella cultura di massa che secondo me è proprio, insomma, adesso forse la dico un po' in modo estremo, il vero oggetto di questo libro, cioè il rapporto con la cultura di massa, insomma, è preponderante, quindi nelle sue varie e la psicologia delle masse, esatto, e poi anche la psicologia delle masse, ecco, ti ci ritrovi in questa idea? Sì, mi ci ritrovo. Idea. Sì. Allora, le fantasie di complotto si nutrono di cultura pop, proprio di popular culture. Non è un caso che QAnon sia così affollato di attori, artisti, cantanti che vengono accusati di far parte della cabal, Beyoncé, Celine Dion, Tom Hanks, che lui è più preso di mira di tutti, lo odiano proprio tantissimo, odiano tantissimo Tom Hanks. Non è un caso che facciano così tanti riferimenti al cinema, a partire appunto dalla pillola rossa di Matrix, ma anche l'adrenocromo è preso da Paura e delirio a Las Vegas, che sicuramente non hanno letto il libro, hanno visto il film con Johnny Depp, e tante altre cose, no? Però alla fine è sempre stato così, si è sempre nutrito di cultura, quella che un tempo era cultura popolare, quella pre-industriale, oggi è cultura popular, quella appunto la cultura di massa veicolata dai media, dall'industria culturale, oggi da internet e quant'altro. Quindi nel parlare di cospirazionismo anche devo mettere in gioco anch'io, devo mettere in campo gli stessi materiali, affrontarli a modo mio, ricombinarli a modo mio, infilare la citazione nascosta di canzone, di film, eccetera eccetera, anch'io devo operare su quel terreno, no? Poi appunto, se qualcuno le scopre, avrà quel momento di Riccardo Del Turco, e chi se la ricorda più Riccardo Del Turco. Per quanto riguarda la colonna sonora del sogno, per me era fondamentale ricreare proprio il decor e l'ambiente del bar anni 70, quindi anche con le possibili canzoni che si ascoltavano durante le chiacchierate nei bar anni 70, quando appunto nei bar non c'erano le slot con i zombie, che capito che stanno lì attaccati tutto il tempo, ma erano comunque dei luoghi di socialità, che poi smerciavano lo stesso roba letale, le sigarette, l'alcol, però insomma era comunque roba letale, secondo me preferibile alla zombificazione da macchinette, da gratta e vinci e roba così. E quindi all'inizio ho inserito la filodifusione in quanto tecnologia vintage, che molti qua non sapranno nemmeno cos'era, tra l'altro, e comunque insomma era una radio via cavo che forniva la RAI, una radio via cavo che forniva la RAI con un palinsesto predeterminato che veniva pubblicato sul Radio Corriere TV canzone per canzone, dicendo lunedì sentirete queste, e c'erano tutte le canzoni che si sarebbero sentite quel giorno lì da mattina fino a tarda notte, no? E quindi ho infilato la filodiffusione, filodiffusione che però comincia a dare i numeri, a funzionare male, e si scopre che è autocosciente, cioè compie delle scelte in base a quello che ascolta, della nostra conversazione, decide quale canzone mettere per dialogare in fondo. Poi a un certo punto fa sentire proprio delle voci che recitano le citazioni che io ho bisogno di elettricità, scurati. A un certo punto si sente Scurati che legge Scurati, ho detto e chi altro può leggere Scurati se non Scurati, ho messo Scurati, Alberto Lupo appunto, comunque anche lì personaggi anni 70 proprio come non mai, perché Alberto Lupo, no? Alberto Lupo legge dei testi che immaginati, letti, una ricerchina, se non sì, sapete che Alberto Lupo ne vale la pena, ma anche YouTube è pieno di video dove esatto, c'è Alberto Lupo con Mina, con Celentano e con Mini Minoprio, con Mini Minoprio e leggere questi testi immaginandoseli recitati da Alberto Lupo, aggiunge un elemento ulteriore, no, di un Heimlich appunto, no, di veramente di sfasamento e di perturbante, e però le scelte che compie sono in larga parte musicali, cioè quindi mi mette delle canzoni che addirittura anticipano quello che io sto per dire, come quando c'è Johnny Cash che parte con Folsom Prison Blues e io non sono ancora arrivato a parlare del caso successo a Reno in Nevada con i due adolescenti che si sparano e dopo la colpa viene data all'heavy metal e quant'altro, però I Shot a Man in Reno è un verso di Folsom Prison Blues di Johnny Cash che la filodifusione anticipa, quindi mi legge addirittura nel pensiero, è capace di essere preveggente, telepatica e preveggente, e quindi c'è questo mio dialogo con questa filodifusione che va avanti per tutto il sogno e che mi è servito comunque anche per animare la cosa. Non ti ho risposto su Valentina Belbo, no? Ah, ecco. È vero, mi sono dimenticata io. Ecco, perché Valentina Belbo è come la filodiffusione, un altro personaggio che io metto lì, che non è nel pendolo di Foucault, ovviamente, e ad un certo punto mi sono accorto che andavo su tematiche di genere, piuttosto, cioè anche su una critica anche di un certo femminismo che ha sposato certe fantasie di complotto. E ho detto, però io sono maschio, cioè la posizione dell'enunciatore qui è delicata, è molto delicata, perché il rischio di mansplaining è fortissimo. Io maschio che spiegare, che provo a scrivere queste cose qua, ho detto, anche se poi cito autrici, però comunque la sintesi la sto facendo io, ho detto devo almeno un po' deflettere l'attenzione da me, cioè queste cose farle dire a una donna. E quindi in realtà Valentina Belbo è un personaggio puramente utilitario, mi serviva perché alcune cose le doveva dire un personaggio femminile, perché altrimenti veramente incappavo in quella trappola, mi avviluppavo nel mansplaining. Dopodiché non è la soluzione ottimale, no? Perché come ha fatto notare il mio collega Woman 4, delle volte sembra un po' il tuo pappagallo, e purtroppo sì, purtroppo sì, cioè non sono riuscito fino in fondo a, però in qualche modo almeno mi sono tirato da parte, almeno in parte, scusate l'inghippo, perché queste cose potessero uscire con una voce femminile. Ecco. Ha rivendicato la soggettività femminile, esatto, nella narrazione. Esatto, cioè, esatto. Senti, chiudiamo, diciamo, con le mie diciamo, domande, proposte, insomma, da dove un po' siamo partiti, cioè da elementi paratestuali. Che funzione hanno i podcast? Come, insomma, non so se sapete, questo libro sul sito della casa editrice Allegre sono comparsi una serie di colloqui che Wuming 1 ha avuto con degli interlocutori, alcuni presenti nel testo, altri no, in cui si riprendono, insomma, questioni tematiche, anche questioni di carattere formale. Io questi podcast molto interessanti li ho letti come una, intanto come un non riuscire a staccarsi dalla tematica, non so se... Ah no, no, figurati, poi mi accompagnerà, poi usciranno le traduzioni del libro. Qui, quindi ancora... è lunga, è lunga. Appunto, come una sorta di autocommento, insomma, però non so se questa mia interpretazione, diciamo, ti convince. E poi proprio per chiudere, ti volevo fare una domanda che secondo me è proprio un po' cruciale, perché si parla di narrazione. Io rimasi molto colpita quando lessi New Italian Epic da una critica che facevi al libro di Salmon sullo storytelling. Sì. In cui, insomma, sostanzialmente dicevi, non basta denunciare in qualche modo il potere perverso delle narrazioni di cui parla Salmon, cioè quelle, sì, sì, sì. No, di, insomma, adesso uso tossiche, ma per capirci, ma insomma in termini. Ma per combattere veramente queste narrazioni che non vanno bene, quelle di belliche, quelle pubblicitarie, eccetera, bisogna ricorrere a delle contronarrazioni che siano altrettanto, se non ovviamente più efficaci, no, di quelle. E a me questa cosa qui ha sempre, sì, continuato, non so, a restare nella testa, perché questa idea di riuscire a creare delle contronarrazioni è, sì, fondamentale, credo sia fondamentale, insomma, anche rispetto, sì, alle fantasie di complotto. Allora, dunque, parto dai podcast, appunto dalla Q di podcast, perché anche lì è la questione di trovare un reagente, no? Cioè, nel senso che dopo che diverse persone che avevano direttamente o indirettamente dato un contributo al mio lavoro, cioè al libro, perché le cito, perché compaiono, perché gli ho fatto leggere in anteprima dei capitoli, o perché mi hanno fornito delle chiavi importanti, dopo che hanno letto il libro io sono voluto tornare a loro e dire, quindi cosa te ne pare? E questo cosa te ne pare però spesso era talmente interessante, perché guardava il libro da un'angolatura diversa, eccetera, che ho deciso, insomma, queste cose vanno registrate. Queste cose vanno registrate. E quindi quando il libro è uscito, subito abbiamo cominciato a lavorare anche ai podcast. Sono solo 8 puntate finora, e poi non ha una cadenza regolare, no? Quando c'è qualcosa che può funzionare come puntata del podcast, la integro, no? Tipo la presentazione fatta con Gad Lerner, alla fine è diventata un po', anche se Gad Lerner non è che abbia contribuito direttamente, però comunque ha fatto una recensione a tutta pagina sul Fatto Quotidiano che mi è parsa molto interessante, anche solo per il fatto che l'ha fatta lui, capito? E quindi abbiamo deciso di coinvolgerlo in una presentazione del libro, che poi è venuta particolarmente bene, quindi ne abbiamo fatto una puntata del podcast. È possibile che anche questo stesso incontro diventi una puntata del podcast, perché ritorno sul luogo del delitto, dove ho fatto la docenza sì. A contratto, sto dialogando con la persona che mi chiamò per propormi la docenza a contratto, che nel frattempo si è letto il libro, che mi ha dato degli stimoli e quant'altro. In più l'angolatura di questa conversazione è molto peculiare, perché siamo rimasti molto sulle questioni appunto di come scritto il libro, come è composto, la sua forma, la sua struttura, le scelte stilistiche, eccetera, e quindi è diverso dalle puntate a tuttora esistenti, quindi anche questa potrebbe diventare tranquillamente una puntata della QD Podcast. E quindi prosegue il discorso, è un modo di proseguire il discorso e di leggere il libro da vari punti di vista, da varie angolature, anche sghembe, anche poco prevedibili. E così. Invece, per quanto riguarda la critica alla denuncia, al pamphlet di Salmon sullo storytelling di ormai 15 anni fa, 13-14 anni fa è uscito in Italia e prima era uscito in Francia. E all'epoca noi criticammo non tanto l'intento, no, che era giusto, ma il modo puramente negativo, in fondo da debunker anche lui, no? Alla fine liquidatorio nei confronti del potere seducente delle storie, dicendo ormai le storie sono state pervertite e piegate a questo scopo di venderci merci, convincerci della giustezza di decisioni politiche, controllarci e quant'altro, e quindi alla fine sembrava che concludesse basta, bisogna smettere di raccontare. Cioè, come se raccontare in sé fosse maligno e non il fatto che poi i racconti sono strumentalizzati e quant'altro. Allora noi rispondemmo, soprattutto Giovanni Bumindue fu molto preciso nel rispondere a Salmon, che comunque l'umanità ha sempre raccontato. Cioè, noi viviamo tramite il racconto che facciamo di noi stessi agli altri, che gli altri fanno a noi. Non potremmo avere nemmeno relazioni interpersonali senza una dimensione narrativa. Ognuno di noi è protagonista di una storia, gli altri entrano in quella storia, ma è così viceversa e tutto quanto, e ci raccontiamo continuamente storie, ci aggiorniamo su quello che è successo a nostri amici, a nostre amiche, cosa è successo nell'ambiente di lavoro, perché dobbiamo rimanere appunto in contatto gli uni con gli altri all'interno di un mondo condiviso, e lo facciamo tramite le storie. E quindi lui sembrava a un certo punto prendere di mira, e quindi sembrava che proponesse di scrivere delle cose che non raccontassero nulla, che è impossibile. Certo. Tra l'altro è del tutto impossibile. Dopodiché, forse rendendosi conto che stava un po' andando in una direzione insostenibile, verso la fine del pamphlet diceva abbiamo bisogno di contronarrazioni, però non diceva in cosa dovessero consistere. Abbiamo bisogno di contronarrazioni, e si fermava lì, che ci è sembrato veramente un atteggiamento molto da intellettuale della Rive Gauche, un po' così, un po' uno che sta per lo riacchiappava, è così. E quindi dentro New Italian Epic finì anche questa critica che abbiamo fatto all'epoca. L'altra cosa che criticavamo era di usare l'espressione storytelling come un concetto nuovo e con una connotazione negativa, quando in inglese storytelling significa semplicemente raccontare storie. Quindi nel contesto, diciamo, francofono, uno prende una parola inglese che sembra strana e la connota come vuole lui, ma cioè, nel momento in cui traduci in inglese tu te la prendi con lo storytelling, che significa semplicemente raccontare storie, cosa che facciamo tutti. Quindi dicevamo proprio anche la scelta di come creare il concetto, che secondo noi era fallata, non funzionava, ecco. E quindi sì, dopodiché non è andato molto lontano quella critica allo storytelling, se n'è appropriata Repubblica, che dà sempre il bacio della morte a tutti i fenomeni, e è così, dal bacio della morte. Quando uno diventa un opinionista di Repubblica poi si imbalsisce, quando Repubblica sposa una causa diventa una roba insostenibile, quando Repubblica comincia a raccontare un fenomeno lo trasforma in sbobba. Ragazzi, è così, è una macchina mitologica anche Repubblica. Quando punta su un leader lo brucia, è così, è il bacio della morte. Bene, Scalfari non c'è più, adesso non c'è più da un pezzo. Sì. No, però no, non intendo dire che è morto, che non è più comunque lui a condurre il gioco, lui fa questi mega editoriali. Vabbè. La storia è quella, la storia è quella. Però, l'ultima Repubblica è anche fuori da questo tipo di... Sì, anche se comunque alcune firme sono rimaste, cioè per dire adesso, per fare dei nomi, prima di diventare un opinionista di Repubblica, Recalcati aveva scritto anche dei libri che uno poteva dire, ma insomma hanno un suo costrutto, dopo Repubblica lo ha trasformato in, cioè, in proprio questa bulimia, no? questa di continuare a roba, tra l'altro poi forse c'è anche sempre la televisione. Anche la televisione è un combinato disposto, la firma di Repubblica poi diventa conduttore televisivo e così. Ecco, allora ad un certo punto questa critica allo storytelling fu presa da Repubblica, dalle pagine culturali di Repubblica, che ne fece tutta una serie di serie, dialoghi da persone baricco e tutto quanto eccetera eccetera, e quindi da lì poi non è più andata da nessuna parte, come era prevedibile, ecco. Grazie Roberto, io vi taccio e vi lascio la parola. Grazie, sì, veramente. Vorremmo aprire voi alle vostre domande. Con questa invettiva finale su Repubblica. E quando ce facevo. Allora, chi vuole rompere il ghiaccio? Su, forza. Vai, Sara. Allora, a me le prime due cose che sono venute in mente ascoltando sono state il libro di Murakami, La fine del mondo e Il paese delle meraviglie, e che c'è sempre questa ambiguità come la pillola di Matrix, che poi si sceglie di vivere, cioè non si capisce dove si sceglie di vivere in realtà, però sicuramente nella maniera più complicata. Dopo questo ascolto penso di aver ricambiato tutto quello che avevo pensato alla prima lettura, che forse me lo devo andare a rileggere con quest'altra ottica, e allora glielo consiglio. E poi gli esercizi di stile di Gounod, che sono una sperimentazione, un modo, tradotti da Eco. Il cerchio si chiude. Quindi ok, le mie, quello che mi ha sollecitato evidentemente allora sono le corde giuste. Sono plausibili come echi, come riverberi di quello che abbiamo detto, sono plausibili. Cioè io più che no, ad esempio, a me delle volte viene in mente, quando decido di fare una cosa piuttosto che un'altra, mi viene in mente Perec, mi viene in mente l'Ulipo, quindi questa idea della costrizione, mi do una costrizione e decido che qualunque cosa io scriva, una roba non la faccio, la tengo fuori, aggiro quel limite creativamente, ma la fucina è quella, la fucina della sperimentazione della cultura francese dell'epoca. Murakami invece mi era venuto in mente in una fase preliminare del lavoro, ma tutt'altro libro, Underground, quello sull'attentato alla metropolitana di Tokyo con il gas nervino, con il sarin. Questo è un libro degli anni 90, del 90. 96 o 97 di Murakami, che mi è venuto in mente proprio nello scrivere quel capitolo su sette e controllo mentale, no? Perché appunto un caso clamoroso di fenomeno cultistico, fenomeno settario, è stato quello di quella setta della suprema verità, Aung Shirin Kyo, che fece quell'attentato con il sarin nella metropolitana di Tokyo, che poteva finire molto peggio di come è finito, poteva fare molti più morti, ed è qualcosa di clamoroso al cui confronto, detta come va detta, Capitol Hill è un po' una barzelletta. Cioè, nel senso che sì, Capitol Hill, il bersaglio simbolico è molto forte, quello che succede è molto forte, il fatto che sia un presidente degli Stati Uniti che incita, però dal punto di vista di quello che è accaduto davvero, cioè noi, cioè, se pensiamo un attimo a che cosa è riuscito a fare Aung Shirin Kyo a Tokyo, è qualcosa di veramente molto più forte. Pensiamo se QAnon avesse deciso di fare un attentato col gas nervino nella metropolitana di New York, no? Per dire. Quindi a me Murakami era venuto in mente, però su tutt'altra operazione di quelle che ha fatto nella sua carriera. Altre domande? Vai Mattia. Allora, Roberto, io volevo chiederti una cosa rispetto a un appunto che fai nella primissima parte del libro, quando a un certo punto analizzi il fenomeno della memetica. Mi sembra di capire che insomma, la posizione portata avanti nel libro è quella di una bocciatura a priori della, diciamo, della forma meme come strumento di comunicazione di contronarrazione, e questa è fa l'eco insomma a quella campagna che è stata portata avanti su 4chan e Chan dall'alt-right per 10 anni, cioè leftist can meme, cioè le persone di sinistra non sanno fare i meme, non sanno utilizzare i meme. Sì, è una posizione che no, poi in realtà su quella posizione lì adesso è superata, perché in realtà molti adolescenti che su TikTok fanno meme e roba così, e anche tutti i movimenti per il clima eccetera hanno dimostrato di saper fare memetica in maniera molto efficace, e sono chiaramente delle soggettività di sinistra, anche per quanto in Italia l'espressione, cioè, ormai non delimiti più alcun campo, però se vogliamo insomma rimanere ai fondamentali, sono sicuramente soggettività di sinistra. No, io quello che dico è che il detournement, che è il principio insomma estetico, l'operazione che è alla base di gran parte della memetica, il detournement è già implicito nella comunicazione in cui siamo avviluppati, è tutto un detournement, perché nel momento in cui la quantità di stimoli che noi riceviamo in un dato minuto della nostra esistenza è così soverchiante, e tutte le cose si giustappongono e si ibridano in maniere imprevedibili, quindi è proprio il sistema stesso che fa continuamente il detournement, quindi non la si può ritenere un'operazione sovversiva come la ritenevano le avanguardie storiche all'epoca. Le avanguardie storiche e poi le avanguardie del dopoguerra, i lettristi e i situazionisti, praticavano il detournement come forma di rottura del flusso, di ricombinazione inaspettata del flusso, ma era un flusso limitato, molto limitato rispetto al flusso di immagini e di segni che ci investe ogni giorno a noi altri. Perché il detournement funziona? Serve una carenza di segni rispetto alla nostra attuale abbondanza. Perché il detournement funzioni, servono tempi più rallentati, e serve probabilmente anche una possibilità di interrogare quel detournement, interrogare quel meme, perché ne venga fuori il suo senso intimo. Invece nella fretta, nella iper velocità degli scambi di oggi, siamo continuamente investiti dai detournement in forma memetica, appunto un'immagine accostata a una frasetta che cambia il senso all'immagine, una gif animata eccetera, ma ne vediamo talmente tanti tutti i giorni che la loro valenza critica automaticamente si impoverisce sempre di più. E con questo io non è che decreto l'impossibilità di fare memetica sensata, pongo semplicemente il problema. Il detournement oggi è già integrato di suo, e l'ironia è diventata la tonalità emotiva dominante nella rete, perché il detournement è un'operazione ironica proprio per definizione, no? E quindi quando faccio ironia non mi sto scollando, diciamo, dalla superficie, dalla carta moschicida dell'informazione in cui sono avviluppato, non mi sto scollando da lì, mi avviluppo in quella colla nel momento in cui uso l'ironia, dove tutti sono ironici, dove in tutto un qui lo dico e qui lo nego, e ma io stavo scherzando, e fate la narisata, e che due coglioni, e tutto così, no? Nel momento in cui anch'io uso l'ironia pensando di usarla come arma critica, in realtà non la sto usando come arma critica, e un po' si ritorna al discorso dell'impossibilità di parodiare il cospirazionismo. Il cospirazionismo contemporaneo è figlio della sovrabbondanza del flusso, e quindi alla fine stiamo parlando della stessa cosa. E secondo te, scusa se ritorno su questo punto, giustamente mi sembra, insomma, il libro parte con una considerazione che è quello che hai riportato anche qui, cioè il fatto che ci sia questa terribile, se vuoi, coincidenza, no, della Q e del contenuto insomma di alcuni lavori vostri precedenti. Tutto quel filone di critica politica, anche messa in pratica, che erano quelle, ricordo i vecchi titoli, derive a Prodi, comunicazione guerriglia, e tutto il lavoro sulla guerra psichica fatta Luther Blissett. Pensi che in qualche modo questa sia stata una eredità che ci è sfuggita di mano e che sia stata ripresa poi dalle destre? O le canzoni Revolution 9 e Helter Skelter siano scappate di mano ai Beatles, perché hanno influenzato me. Cioè, quando produci arte e cultura, quella va nel mondo, e non puoi controllare come verrà interpretata, chi ne farà uso, cioè non puoi e nemmeno dovresti, cioè non dovresti nemmeno avere la velleità di poter controllare il tuo output una volta che è nel mondo, no? Scritto un romanzo e verrà letto da, non so, 500.000 di persone, saranno 500.000 di romanzi diversi, perché ogni persona lo leggerà a suo modo, si immaginerà le facce e i luoghi a modo suo, una frase che legge andrà a sollevare una coltre che copriva dei ricordi di infanzia, cioè quindi ogni persona leggerà il libro a modo suo e io non posso controllarlo il modo in cui lo leggerà e nemmeno posso controllare il modo in cui verrà citato, il modo in cui, cioè, è una cosa che è fuori da, sia dalle mie capacità sia dalle mie velleità. Quindi non è che ci è scappata di mano, appunto la cassetta degli attrezzi va costantemente inventariata, perché ci sono delle tattiche che funzionavano in un determinato periodo e non funzionano più in un altro. No. Ad esempio oggi questa cosa di creare queste mega narrazioni basate, tutte concatenazioni di fake news che facevamo all'epoca di Luther Blissett, che usammo anche all'epoca del caso Bambini di Satana, no? Di spacciare ai media continuamente false notizie collegate tra loro fino a creare proprio un mondo parallelo in cui i media cominciano a intrattenersi sempre più a lungo e poi alla fine gli toglie la terra sotto i piedi dicendo ci siamo inventati tutto noi. E quel momento lì del disvelamento ha un'efficacia critica, nel caso dei Bambini di Satana ha contribuito molto a far vedere che era facilissimo inventare delle storie a sfondo satanico e pedofilo. All'epoca dicemmo queste ce le siamo inventate noi, ma il resto del Carlino quante altre se ne è inventate, e questa roba riconfigurò i cervelli, no? Cioè contribuì a riconfigurare i cervelli. Quello che dico nel libro è che bisogna probabilmente mantenere quello spirito, lo spirito con cui facevamo le cose lì, ma senza aderire letteralmente a quello schema, perché oggi quello schema lì può darsi che non funzioni più. Cioè il fatto di inoculare del falso per poi rivendicare che è falso, oggi con i tempi così accelerati, per fare quello lì avevi bisogno di tempo per fare quella cosa. La beffa dei satanisti di Viterbo, quella che racconto per filo e per segno, è durata un anno, è stata costruita con lentezza. Oggi con appunto questa iperaccelerazione di tutto quanto, probabilmente tu investiresti un sacco del tuo tempo e delle tue energie nel costruire una narrazione per poi dire che era falsa e tutti per un istante, un piccolo beep, dicono ah, era falsa, un minuto dopo si sta già parlando d'altro. Cioè quindi quello che dico io è che la cassetta degli attrezzi va continuamente controllata, vanno tirati fuori tutti gli attrezzi, vanno anche ripuliti eccetera, e poi quando vengono rimessi dentro alcuni vanno lasciati fuori e magari ne vanno messi dentro di diversi, capito? Devi anche avere una scaffaliera con sopra tanti attrezzi, perché quando vai ad aprire la cassetta con cui poi andrai in giro, delle volte appunto devi prendere questo, quell'altro eccetera. E quindi dagli attrezzi minimi, le parole. A partire dagli attrezzi minimi, le parole. Sulle parole. Sì. Perché è da lì che parti. Fondamentale poi per chiunque, al di là per tutti noi comunque che viviamo in questa situazione, ma per loro che lavorano o vogliono lavorare con le parole. È la prima operazione di pulizia proprio, di ordine. Sì, io ci sono alcune parole che ho scelto proprio di non usare. E lo dico, lo dichiaro che non lo userò, tipo complottista, che, o negazionista ad un certo punto, critico proprio l'utilizzo ormai indiscriminato dell'epiteto negazionista contro chiunque e cerco di fare un'operazione di igiene proprio lessicale. Dico, proviamo a fare questi discorsi togliendo di mezzo questa parola e vediamo cosa ne viene fuori. Ecco, sì. Gli attrezzi primi. Sì, gli oggetti primi sono proprio i termini, i vocaboli che andiamo a utilizzare. C'è Giada che voleva intervenire. Ok. Sì, in realtà mi interessava sapere, mi rendo conto che è una domanda pure abbastanza ampia forse, in che modo queste fantasie di complotto difendono il sistema? Cioè che cosa fanno? Spostano la rabbia sociale verso un qualcosa che poi è il meraviglioso e quindi che è altro, e quindi spostano l'attenzione da qualcosa che non puoi controllare? Portano un sacco di persone, ma veramente un sacco di persone, tantissime persone insoddisfatte del sistema, frustrate, sfruttate, discriminate, impoverite, angosciate, un sacco di persone così a investire tutto il loro tempo e le loro energie in fantasie, appunto, di complotto, e quindi è tutto tempo che non viene investito in una organizzazione, una mobilitazione, una critica fondata e sensata della realtà che vivono, e vengono spediti col retino per farfalle a cercare di catturare fantasmi. E se noi vediamo anche quanto si impegnano, perché c'è gente che veramente si impegna tantissimo, convinta di portare avanti una critica al sistema, una denuncia delle strutture di potere, quando invece parla dei rettiliani, del vaccino con dentro il microchip, del 5G, di tutte queste robe qua, e loro sono convinti anche in buona fede di esprimere un'analisi, una critica, un'inchiesta, di fare un'inchiesta, e invece stanno appunto sprecando anni di vita, ore e ore di ogni singolo giorno in rete ad alimentare questa cosa che è un diversivo, è un gigantesco diversivo. Per questo dico che alla fine hanno una funzione stabilizzante, sono una narrazione diversiva che ha un effetto omeostatico, come dico nel libro, cioè permettono al sistema di continuare a funzionare così com'è, perché distolgono le energie che potrebbero essere antisistemiche o comunque investite in spinte antisistemiche per cambiarlo, quel sistema lì, invece vengono allontanate dal nocciolo dei problemi reali. Come? Scusa, non... Oppio dei popoli. Ah, oppio dei popoli, sì. Sì. Sì, è una specie di oppio dei popoli, però con la differenza che l'oppio ha un effetto narcotico. Cioè, l'oppio è quella roba lì di Robert De Niro in C'era una volta in America, nella fumeria, che sta lì. Invece questa è energizzante, è più un'anfetamina dei popoli, è più uno speed, un'anfetamina dei popoli, questa cosa qua, perché appunto non è un oppiaceo, è in realtà gli dà una frenesia, un'energia, cioè una voglia di investire tempo e risorse e pensiero in queste cose. È anche un empatogeno come droga, è come l'MDMA, è come l'ecstasy, perché crea comunità, perché loro comunque all'interno si creano delle reti. E anche quello è un bisogno che il cospirazionismo soddisfa, un bisogno di community, un bisogno di relazione. Loro tra di loro si creano i loro gruppi, i loro network, vanno in piazza insieme. Seguendo, mi sembra che abbiamo messo molto in evidenza, diciamo, la descrizione di questo fenomeno come meccanismo, come macchina narrativa che, diciamo così, e come tale, come un meccanismo che ricorda anche in questo caso, abbiamo citato Iesi, ma anche la definizione di mito di Levi-Strauss, cioè è un meccanismo che serve per pensare, è un meccanismo che serve per raccontare storie, per soddisfare due bisogni fondamentali dell'umanità, come diciamo anche prima, che poi sono correlati, cioè il bisogno di totalità, perché il mito è per definizione un racconto che vuole spiegare tutto con tutto. E il complottismo, infatti, possiamo metterci dentro tutto, diciamo prima la parodia, quale parodia è possibile? Ci sono Biden, Tom Hanks, 007 e Elvis Presley che è ancora vivo, perché ci mettiamo Bergoglio, perché no? Ma sì, è meglio, anzi è pure più completo. E come tale questo bisogno di totalità è anche collegato al bisogno di comunità, perché noi viviamo in una società sempre più frammentata, eccetera, eccetera. E quindi sì, ecco, volevo dire questo, mi sembra che ci sia, diciamo, se è vero che il mito è un meccanismo vuoto, queste narrazioni, vediamo che andando a vedere poi non hanno un contenuto, o meglio, possono raccogliere qualsiasi contenuto, però forse c'è qualcosa dentro, c'è questa sete, cioè questa proprio è l'assenza, la mancanza, il vuoto, è anche il vuoto di una... Quindi si rimanda forse alla citazione di Chesterton, che poi è apocrifa, sembra, cioè quando l'umanità era cattolico, Chesterton era convertito al cattolicesimo, quando l'umanità smette di credere in Dio, non è che non crede più a nulla, crede a qualsiasi cosa. E abbiamo passato la fede delle religioni, la fede che poi non pare che non sia sua. È come l'antisemitismo, il socialismo, gli imbecilli attribuita a Bebel che non è. Che non è sa, questo non lo sapevo, per esempio. Non è detta da nessuna parte, però funziona, eh. E quindi, come dire, però non c'è più la religione, non ci sono più le ideologie, non c'è più nessun tipo di comunità, nessun tipo di prospettiva, in qualche modo queste narrazioni sono delle droghe, sì. Droghe sono sì. Come sostituti. Dei sostituti. Sì, che però non funzionerebbero se non interpretassero a modo loro dei nuclei di verità, nuclei tematici di verità, perché comunque devono sempre basarsi su dei problemi reali che però vengono pervertiti, no? Parlando di negazionismo, si impedisce di, se negazionista, impedisce di criticare la gestione politica della pandemia, che ci sono tanti modi razionalissimi di criticarla, però se ti danno automaticamente del negazionista. Perché poi la base di tutto c'è la separazione, cioè si cerca, mi sembra, no, volevo... a un certo punto dicevi uno si trova a dover fra virgolette difendere appunto Hillary Clinton o Bill sì, Gates sì. Sì, sì, o Soros si trovi, no? A dover virgolette difendere Soros e quindi non lo puoi più criticare perché automaticamente viene accostato a quelli secondo cui Soros paga tutti gli immigrati per venire qua, certo, eccetera, certo. No, questo diciamo, mi sembrava un discorso. Sì, sì. No, questo dei nuclei di verità è fondamentale perché le fantasie di complotto non avrebbero la presa che hanno, non avrebbero il successo che hanno se non si sviluppassero intorno a dei problemi veri di cui poi danno la spiegazione più assurda possibile, però partono dai problemi veri, cioè, o comunque dalla percezione di una realtà intollerabile. E non solo esistono i nuclei di verità, cioè i problemi veri, e danno risposte a bisogni che sono costitutivi, ma esprimono, cioè affondano le radici nella struttura stessa del nostro modo di essere. Quando tu dicevi incanto e spirito critico, nel libro si parla di pensiero lento e di pensiero veloce, si parla di bias, di dissonanza cognitiva, ci sono dei tratti proprio che identificano la nostra specie, cioè il nostro essere uomo, capito? Per cui affondano lì, rispondono a bisogni altrettanto costitutivi e inglobano nuclei di verità, certo, oggettivamente. Certo. Quindi in realtà c'hanno una potenza di fuoco micidiale. Assolutamente, è la constatazione da cui parto, perché se non fosse vero tutto quello che hai appena detto sarebbero solo delle fanfaluche come tante, sarebbero, a cui non crede nessuno. E sarebbe incomprensibile. Così si capiscono. Assolutamente. E se non le capiamo non le potremo contrastare. Certo. Il problema è questo. Certo. Sì. prima le... No, mi chiedevo, adesso riflettevo sul fatto anche un tentativo di mettere in relazione tutto, cioè il tentativo, il mito, no, serve per mettere in relazione, dire che tutte le parti del mondo sono collegate tra di loro e quindi c'è anche questa perdita di un senso di totalità che abbiamo nella realtà di oggi, come si cioè la necessità laddove c'è un sapere sempre iperspecializzato, dove non c'è più connessione tra le parti, quanto poi queste le teorie dei complotto rispondono a questa necessità umana di saper mettere in relazione un tutto. Descrivere la realtà nel suo complesso, o comunque riuscire a rappresentarsela, riuscire ad abbracciarla in qualche modo, ad averne un'idea, questo è un altro bisogno che è molto sentito in un'epoca appunto di frammentazione estrema, di iperspecializzazione dei saperi, di focus ristretto, di un'informazione che non collega più niente, non fa più il follow up di nulla, no? Ti viene data una notizia senza collegarla a quello che c'è stato prima, a quello che c'è stato dopo, insomma, dentro questo caos c'è un bisogno di poter abbracciare la realtà, no? Capire perché mi sento così male e dare una risposta totale, no? Totale, dire perché è tutto un complotto, è tutto un piano, tutto quello che succede è predeterminato perché ci sono dei grandi burattinai e quindi io sto male per quello. È una necessità, è un bisogno a cui bisognerebbe saper dare risposte più sensate, cioè quindi intercettarlo prima, tutti i bisogni di cui abbiamo parlato. Il punto è intercettarli prima che li intercetti il cospirazionismo. Il cospirazionismo prende sempre più piede perché latita una critica al sistema più spendibile, più fondata, più mirata, più focalizzata, che interpreti meglio i malesseri delle persone, che colpisca nei punti giusti, che usi appunto gli strumenti adeguati, che faccia un'analisi azzeccata e quant'altro, e quindi il cospirazionismo va a fare da surrogato, va a riempire degli spazi che sono stati lasciati vuoti da virgolette noi, poi uno può dire noi chi? Noi, facciamo noi, che noi lasciamo vuoti quegli spazi e il cospirazionismo li riempie, bisogna ritornare a presidiarli e bisogna intercettare dei bisogni e dei desideri anche prima che lo faccia il cospirazionismo. Salve, io il libro l'ho comprato, premetto, ma non l'ho ancora letto. Okay. E quindi mi trovavo qui per curiosità fondamentalmente, per capire i temi di cui tratta, no, quello ovvero, per avere un qualche spoiler prima della lettura. E sono una studentessa del corso di informazione, comunicazione ed editoria e ho proposto nel corso delle lezioni di psicologia degli ambienti digitali un seminario che collima un po' tanto con i temi trattati nel libro. Sento un po' l'urgenza, la necessità di capire meglio i fatti che sono successi, che stanno succedendo in Italia ultimamente. Mm-hmm. Parlo in particolare delle manifestazioni Novax, sì, dell'assalto che c'è stato alla CGIL, sì, e di questo movimento che è nato e sta andando avanti. E quindi sento quest'urgenza, sì, di capire come hanno fatto le destre a organizzarsi negli ambienti digitali, perché è nato negli ambienti digitali, sì, e sono riusciti a prendersi le piazze e addirittura a fare una piccola Capitol Hill dei country, sì, a Roma. Sì. E come invece è successo in questa società così frammentata che la piazza, che fondamentalmente è stata tradizionalmente sempre delle sinistre, sì, che invece sono completamente scomparse. Sì, allora no, sì, chiedere, sì, qui chiudo, verrebbe alla nostra attività seminariale, sì, a dare un suo contributo, perché mi sembra che, sì, collimino molto le, sì, cose. Siete conto, il mio punto di vista su queste cose è come minimo divisivo, ok? Perché ecco, sì, dunque, noi negli ultimi 2 anni abbiamo scritto molto sul nostro blog, Noi Booming, abbiamo espresso una critica articolata del modo in cui è stata gestita dai governi Conte 2 e Draghi l'emergenza pandemica in Italia. Abbiamo criticato la ratio di diversi provvedimenti, senza mai negare la pandemia, io stesso ho avuto il Covid, sono stato in isolamento 21 giorni, eccetera, però criticando tutta una serie di quelle che secondo noi sono state narrazioni diversive che sono state portate avanti per tutelare determinati interessi, eccetera, e siamo anche molto critici nei confronti di come è stato implementato lo strumento del Green Pass, che è una sorta di attestazione vaccinale, esiste in tutta Europa, ma il modo in cui la usiamo noi e l'abbiamo introdotto noi e le retoriche con cui le abbiamo giustificate sono molto peculiari e noi abbiamo scritto molto nel criticare questa cosa qua. Noi fin dalla fine del primo lockdown abbiamo cominciato ad avvisare che il deficit di critica della gestione pandemica da sinistra avrebbe lasciato vuoti degli spazi che poi sarebbero stati riempiti dalle destre o comunque dal cospirazionismo. Perché si prendono le piazze? A parte che non se le prendono tutte, Roma tra l'altro. Certo, no, ma poi se si sono presi quella di Roma è già tanto, voglio dire, nel senso che è una delle piazze più importanti, è la capitale e tutte, e oggettivamente questo problema a Roma c'è forte e si è visto. Ecco, però la realtà è a macchia di leopardo, è molto diversa in altre. La mobilitazione non è una mobilitazione nazionale, sono tantissime mobilitazioni locali, con piazze anche con composizioni completamente radicalmente diverse, anche con discorsi diversi che vengono fuori. Però noi l'abbiamo detto, pixel cantano, nel senso che sono cose che abbiamo scritto già nel 2020 predicendo lo scoppio di movimenti come questi, dicendo che si stava accumulando nel corpo sociale una rabbia nei confronti della gestione della pandemia, che poi si sarebbe espressa purtroppo in maniere ambigue, distorte, confusioniste, con forte possibilità di cattura da parte di cospirazionismi e neofascismi e cose varie. Però questo non rende meno veri i noccioli di verità che quel tipo di retoriche lì pervertono, e i noccioli di verità ce ne sono tanti, negli ultimi 2 anni se ne sono accumulati tanti. Adesso io qui potrei parlare per 3 ore di questa cosa, perché è un lavoro, anche nel libro ci sono, c'è una miniserie di capitoli collettivamente intitolati Inviro Veritas, dove, arrivando fino all'inizio del 2021, sintetizzo la critica della gestione pandemica che abbiamo portato avanti sul nostro blog. Perché noi ci siamo trovati a camminare su una fune. Cioè, nel senso, a criticare la gestione pandemica, allo stesso tempo criticare i cospirazionismi, le destre, le fantasie di complotto deliranti che circolavano a proposito della pandemia e del virus, quindi di mantenere costantemente quell'equilibrio lì, cioè, che è veramente difficile da mantenere, appunto, di non cadere né da una parte né dall'altra. E questo, tra l'altro, ha richiesto veramente tante energie, anche perché partono queste discussioni fiume sul nostro blog, che però mi sono servite anche per il libro, perché cito anche dei commenti qua, tra i vari materiali che butto dentro ci sono anche dei commenti lasciati da utenti del nostro blog. Alcune parti sono in buona sostanza delle rielaborazioni di discussioni che ci sono state su JAP a proposito della pandemia e a proposito del cospirazionismo, e quindi questa cosa è servita alla fine, anche se è stata bella faticosa. Tra l'altro siamo in 3, non è che siamo una legione, no, siamo in 3 a gestire quel blog, e oggettivamente è stato faticoso, anche perché poi vieni attaccato da chi non sa discernere la tua posizione da quelle che abbiamo appena enucleato, e quindi ti dà a te del Novax. Io sono vaccinato, è tutto vaccinato, mia figlia, tutto, però nel Novax, perché critichi il Green Pass, perché poi non c'è neanche la capacità più di distinguere vaccino e Green Pass, perché uno è un farmaco, è una misura sanitaria, e l'altro invece è un documento, è un dispositivo amministrativo, burocratico e politico, no? Che tra l'altro molti paesi dell'Unione Europea non hanno introdotto. Ecco. Quindi anche difenderti dagli attacchi che ti danno del negazionista, anche se tu, addirittura ti danno del aperturista, no? All'epoca dicevano sei come Confindustria, che vuole riaprire tutto così ci contagiamo e loro fanno i profitti, ma noi fin dall'inizio abbiamo detto che andavano chiuse le fabbriche, cosa che invece né la Regione Lombardia né il governo hanno fatto, perché Confindustria ha fatto pressione, e quindi in Valseriana, dove andava decretata la zona rossa e chiuse tutte le aziende nella seconda metà di febbraio del 2021, questa cosa non è stata fatta. Però poi mandavi i droni nei boschi, gli elicotteri sulle spiagge deserte, quello che il jogging, quello che andava, portava troppe volte il cane a pisciare, quelli lì erano i capri espiatori, mentre Confindustria, che aveva permesso che il focolaio bergamasco esplodesse facendo una carneficina, no, quelli no. Quindi il nemico era il tuo vicino di casa che andava troppe volte al supermercato, e invece quello era lì. Quindi noi abbiamo questa posizione qua. No, vai, basta. Una curiosità. Volevo sapere qual è il bersaglio polemico tuo contro la teoria dei complotti. Nel senso che io credo che ci sia un nucleo comune nei complotti nella storia. Sì. Cioè il materiale simbolico che noi troviamo nei protocolli, sì, lo ritroviamo anche in altri, sì, in altri materiali. Quindi per quella è la teoria sul complotto, mentre la teoria del complotto è un'altra cosa, cioè nel senso che conspiracy theory in inglese è dispregiativo. Theory in inglese ha 2 significati: uno che è usato in ambito scientifico, come più o meno lo usiamo noi da noi teoria, no, che vuol dire un pensiero strutturato, una elaborazione che segue determinati passaggi, che è un insieme di concetti, e quella è la teoria. Però l'uso più comune, che è quello usato nell'espressione conspiracy theory in inglese, e questa è una cosa che in Italia pochi sanno, vuol dire congettura, illazione. Quindi quando loro dicono conspiracy theory intendono dire una teoria sballata. Quando però si traduce in italiano e in tutte le lingue dell'Europa continentale, questa cosa qua, quella sfumatura si perde completamente, e quindi vengono tradotti con un semplice calco dall'inglese interi libri dove quel concetto in inglese era usato in termine dispregiativo, e tu conservi il contesto in cui questo avviene, però usando un'espressione che in realtà di suo è neutra. Cioè in realtà non ci sarebbe nulla di male ad avere una teoria a proposito di un complotto. Anche io faccio sempre questo esempio: quelli che dicevano a mettere la bomba in Piazza Fontana non sono stati gli anarchici, sono stati i fascisti, assieme al settore dei servizi segreti, era una teoria su un complotto, una teoria che poi si è rivelata vera. Ok? Quindi quella era una teoria del complotto. Però, cioè, questa cosa si perde. Quando conspiracy theorist, che vuol dire cazzaro, quando viene tradotto in teorico del complotto, delle due, cioè, beh, insomma, è un teorico. Cioè, vuoi non ascoltare un teorico? Quindi questo è un problema. Poi appunto c'è questa cosa che, siccome non c'è nulla in sé di inerentemente sbagliato nell'avere una teoria a proposito di un complotto, perché i complotti esistono, siamo il paese della P2, della strategia della tensione, i complotti esistono, però ci sono alcune congetture su complotti che sono logicamente e logisticamente impossibili, e quindi quelle sono pure congetture che diventano, man mano che vanno avanti, diventano fantasticherie e poi veri e propri fantasmi. Sì, ma quella, ok, però è quello che faccio nel libro, ma non uso, il concetto di teoria del complotto è riferito alla teoria di chi ci crede. Però secondo me non funziona, perché secondo me bisogna distinguere tra un'ipotesi fondata di complotto e una fantasticheria a proposito di un complotto. E quindi nel libro cerco anche di isolare le caratteristiche dei complotti reali di cui noi siamo a conoscenza e vedere invece quali sono le caratteristiche comuni dei complotti fantasticati, come il complotto giudaico-massonico, QAnon, le scie chimiche, tutte queste cose qua. E ho constatato che l'insieme di caratteristiche di queste seconde, cioè di quelle fantasticate, delle cospirazioni fantasticate, è l'esatto capovolgimento delle caratteristiche dei complotti reali. Quindi se uno vede i due specchietti che ho fatto, le caratteristiche di un complotto reale, di quelli che hanno luogo davvero, e le caratteristiche di un complotto oggetto di fantasia di complotto, ciascun elemento è il rovesciamento e il capovolgimento del corrispettivo dello specchietto precedente. Quindi cerco di fare anche questa operazione tassonomica. Ho sdoppiato teoria del complotto in due concetti diversi: ipotesi di complotto, come quella su Piazza Fontana, e fantasia di complotto, che invece è quella che tutta la realtà, cioè la fantasia di complotto è sempre totale, tutta la realtà è complotto. Invece i complotti veri sono quasi sempre mirati, focalizzati, sono figli del loro tempo, ad un certo punto finiscono, vengono scoperti, quando vengono scoperti finiscono oppure cambiano, eccetera. Invece i complotti fantasticati, qualsiasi cosa tu dica di essi, proseguono imperterriti e abbracciano l'intera totalità. Una cosa che dico nel libro è che noi dobbiamo anche ridurre la carica proprio emotiva del termine complotto, perché in realtà un complotto è una cosa banalissima. Perché si abbia un complotto basta che almeno due persone si mettano d'accordo tra loro all'insaputa di almeno una terza per nuocere a quest'ultima. Fine. Quindi è una cosa che avviene continuamente. Ci sono complotti dappertutto, sui luoghi di lavoro, nelle compagnie di amici, alla giuria, nella lotta politica, alla giuria del premio Strega. Cioè io faccio, questo è un esempio che faccio sempre, no? Alla giuria del premio Strega. Ecco. E quindi in realtà il complotto è qualcosa di molto banale. Diventa qualcosa di incredibile, di totalizzante e totalitario, di onnipervasivo, di onnipotente, eccetera, dentro la fantasia di complotto, perché la sua portata viene estesa all'intera totalità. Beh, i complotti veri sono localizzati, perfino la strategia della tensione aveva dei fini precisi che sono stati ricostruiti, aveva degli attori in campo che in qualche maniera sono stati individuati, ci sono delle sentenze che fanno nomi e cognomi, cioè, quindi i complotti veri sono così, invece gli altri complotti no, quelli sono inabbracciabili e inassimilabili in termini di sintesi. Cioè, anzi, più li neghi e più si autoalimentano, perché chi li nega è complice, viene subito arruolato nell'armata del nemico. Dei protocolli? Sì. Sì, perché poi spesso i complotti veri sono finalizzati a far credere complotti immaginari. Quello, l'Ocrana che scrive i protocolli di Savi di Sion, quello lì è un complotto vero, e però è finalizzato a far credere alla gente l'esistenza di un complotto immaginario. Sì, quello di Tomaseo. No, non così antico. Eh beh, eh sì. Eh sì, perché allora ci vuole un intento malevolo. Sì, ci vuole un intento malevolo. Io dico sempre, se io e mio fratello ci mettiamo d'accordo. No, no, se io... Esatto, ci vuole collettività, cioè più di una persona, segreto e intento maligno, colpevole. Perché se io, faccio sempre questo esempio, mi metto d'accordo con mio fratello per organizzare la festa di compleanno a sorpresa di mio padre, a sua insaputa, non è un complotto, perché ci stiamo mettendo d'accordo in due e mantenendo il segreto alla terza persona, ma manca l'intento di nuocere, ma quindi non è un complotto. Cioè, il complotto a fin di bene non è un complotto, diciamo. Sì, sì, che, vabbè, che magari non voleva fare la festa, no? Hai capito? Però lì entriamo in gioco. Sì. Testimoniare dal fatto che domani in America, in Stati Uniti, si pubblica Vitraia, che è un libro di giornalista su Italy Gate. Sì, sì. Che è su Italy Gate. Italy Gate. Cioè che a novembre dello scorso anno i cittadini statunitensi hanno votato e Biden ha vinto, Trump si è trovato sconfitto e hanno incaricato il Pentagono. Che i satelliti militari italiani, che sono tutte queste cose, però insomma della Leonardo di meccanica, avrebbe degli americani. Quindi c'è un complotto di italiani, si sa di chi, però, ma insomma l'italiano che ha fatto perdere. Avevano fatto proprio dei nomi all'epoca. Ma erano Renzi, Renzi e Conte. No, avevano fatto dei nomi. Vogliono leggere il libro in inglese direttamente, quindi non dico come va a finire. Però a noi ci piaceva questa cosa. Perché, io poi qui faccio un paragone. Aspetta, mi dai l'indice dei nomi un momento, visto che ce l'hai. Sì, l'indice. Dei nomi. Perché io poi faccio un paragone. È un bel plot. Infatti poi Vitraia lo leggeremo. Aspetta, io devo cercare sotto la V un nome ed è... Vediamo, pagina 386 in nota. Ah, quindi alle note alla fine. No, 386, dammi qua, aspetta. Vai, faccio. Okay. Perché, ecco, 386, io qua a un certo punto, ecco. L'unica fantasia di complotto sui brogli divertente, almeno dal punto di vista italiano, era hashtag Italy Did It, una storiella con cui si balloccarono per un po' i credenti. A truccare le presidenziali erano stati gli italiani, per la precisione il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, un po' come dire che l'assegnazione degli Academy Award era stata truccata da Alvaro Vitali. Quindi, nel libro così, ecco. Ma Peppino, non ho capito una cosa, questo libro che esce è una roba seria? Sì. Una cosa. Sì, sì, questo. Ma quanto vengono strumentalizzate, questi complotti vengono comunque, se ne parla a fine di strumentalizzazione dell'opinione pubblica per magari distogliere da altre cose. Sì, capita anche quello, sì, cioè fa parte della loro funzione sistemica anche quello di riempire gli spazi anche del discorso pubblico e dell'informazione, di modo che senza, anche non volendo, cioè nel senso che hanno una tale carica, hanno una tale potenza che vanno veramente a riempire ogni, cioè, e sono come un liquido, entrano in ogni anfratto, riempiono ogni cavità del discorso pubblico, e quindi ci sono delle fasi in cui si parla ossessivamente di questi e di fatto la funzione è diversiva, fa parte del loro stabilizzare il sistema. Non so, ad esempio, parlare ossessivamente di antivaccinismo, per ritornare agli esempi di prima, anche molto oltre la portata reale del fenomeno, perché comunque in Italia hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino oltre l'80% della popolazione totale, e se consideriamo solo gli over 12 la percentuale è molto più alta, e ci sono alcuni settori del mondo del lavoro dove è largamente, almeno dall'estate, sopra il 90%, quindi stiamo parlando di un paese che ha aderito convintamente nella sua maggioranza la campagna vaccinale, ma a leggere i titoli dei giornali sembra che il pericolo pubblico sia i Novax e che l'antivaccinismo sia dappertutto e quant'altro. Anche questo qui è un modo di stabilizzare il sistema, di operare dei diversivi, che poi non è detto che il singolo giornalista lo faccia a quello scopo, ma è come funziona l'informazione, perché comunque il sensazionalismo si autoalimenta e è così. Il complotto, però è spesso un complotto oggettivo, cioè nel senso che è proprio la logica di fondo del sistema che lo spinge in determinate direzioni. Il sistema dell'informazione, senz'altro, è fatto in larga parte di automatismi, il sistema dell'informazione. L'idea stessa di che cosa sia notiziabile ormai è sedimentata nella coscienza collettiva e quindi alcune cose diventano notizie e sono del tutto irrisorie e altre che sono importantissime non lo sono, non sono notizie. Avete altre domande da fare o commenti o riflessioni? Se non c'è altro. Non c'è altro. Allora voglio dare la parola a te, ma vogliamo concludere? No, perché è chiaro che sennò uno parlerebbe le ore. Dico due cosette. Vai. Allora. C'è questo foglietto su cui Allora. Sì, volevo tornare perché sono particolarmente sensibile a questa idea della necessità di inventariare e costantemente la cassetta degli attrezzi, e la sottolineo perché, visto il luogo in cui ci troviamo, il contenitore all'interno del quale abbiamo pensato questo seminario, le persone qui presenti, mi sembra di un'importanza particolare. Quindi dicevamo, a partire questi strumenti, a partire dalle parole, il cui senso è dinamico, cioè è portato a modificarsi in funzione del contesto in cui vengono utilizzate, cioè questo stretching per cui si tira l'accezione e la valenza semantica, fino ad assumere significati paradossalmente opposti a quelli iniziali. E per esempio l'idea, qui però interviene la traduzione da una lingua all'altra, però l'idea di come si utilizza la parola teoria e invece ipotesi e invece fantasia. In questo libro c'è una riflessione anche sulla libertà di parola, cioè in che senso possiamo anche fraintendere questo tipo di espressione? Non lo so, vuoi soffermarti su questo? La libertà di parola mi pareva una cosa molto importante. Sì. Così come anche la riflessione sulla scienza. Perché scienza barra scienze, ok? Allora, parlare di scienza c'ha già una valenza ideologica forte, la scienza. Dire che esistono le scienze è una cosa molto diversa. Io e gli studenti che frequentano i miei corsi e quelli di Mattia naturalmente lo sanno benissimo, perché le scienze biologiche, le scienze del vivente sono già anomale rispetto alle scienze hard. Dentro le scienze biologiche la psicologia è come dire, problematicissima, e quindi siamo particolarmente interni a discorsi che noi normalmente facciamo. Tu fai osservare delle cose, cioè la scienza, e nel caso della pandemia la scienza è la virologia, sì. Il virocentrismo, no? Allora, i virologi, volevo dire, non ci stanno gli psicologi, non ci stanno i pediatri, non ci stanno i sessuologi, che pure lì è successa una tragedia, ecco appunto. E non ci stanno gli esperti dell'età evolutiva, porca miseria, che invece è l'età che è stata proprio investita, e gli è passato sopra un tram, capito? Quindi spunti di riflessione importante che si collegano alla specificità dell'interesse, al di là dell'interesse culturale, no? È evidente che queste tematiche sono di interesse in senso molto lato, ma soprattutto per chi è interessato a lavorare con la comunicazione e con l'informazione, mi sembrano degli elementi imprescindibili. La scienza, le scienze, le ipotesi, le teorie, le fantasie, gli attrezzi da rivisitare. Diceva prima Sara, mi rileggerò Murakami e lo leggerò e lo capirò, in maniera diversa, come sempre succede coi libri, proprio perché il potere in realtà dei libri, il potere della narrazione in senso positivo, non in senso critico, esatto, è proprio questo, no? È di rigenerare sensi diversi nel corso del tempo. Io penso che dentro questo libro ci siano tantissimi spunti, al di là di quelli culturali, politici, bla bla bla, antropologici, però strettamente mirati a voi, secondo me. Questo volevo dire, è per questo che abbiamo pensato di realizzare un seminario in generale sul tema, appunto, di carattere generale, che è le teorie, la cultura, la comunicazione, l'informazione e come si pone rispetto a queste teorie, ma cominciare con questo libro è perché qua dentro ci sono questi a loro volta strumenti, cioè noi ci auguriamo che possano essere strumenti di pensiero critico, che certamente non deve essere però assolutizzato, perché come dicevi te, accanto al pensiero critico c'è la meraviglia. E la cosa, quando parlavamo, allora bisogna pensare delle contronarrazioni, delle narrazioni diverse. Penso sia quello che hai tentato di fare tu, mettendoci dentro anche la meraviglia, cioè mettendo dentro il pensiero lento e il pensiero veloce, mettendo dentro anche gli aspetti contrastanti che tuttavia ci costituiscono. Ed è per questo che certi fenomeni ci trascinano così tanto, perché siamo fatti così, e saperlo ci dà, e ancora torno agli strumenti, ci dà delle, no, delle armi, pare brutto, poi il discorso sulla guerra, ormai uno non c'ha pure delle remore a usare queste parole, non so, armi, che sono? Attrezzi. Sì, ecco, come, sì. Utensili. Degli utensili. Per questo che appunto io in una delle domande alla fine ci parlavo proprio di empatia, esatto, e di etica della scrittura, no? che secondo me stanno insieme in questo senso, cioè c'è la necessità di capire anche il complottista, chiamiamolo, sì, con le, sì, con, sì, le virgolette di eco, fra l'altro, sì, certo, le famose virgolette di eco. È vero. E questo ha un significato appunto anche etico, nel senso, insomma, più alto e più nobile del termine, insomma, perché sì, è nello stesso tempo coinvolgimento, ma anche sguardo e azione, insomma, che entra in rapporto con l'oggetto del lavoro, insomma. Se no è semplicemente forare i palloncini, quella cosa è bellissima. È bellissima che le mani, appunto, arrivi tu, fai il sac, ok. Vabbè, penso che ormai forse ci mandano anche via, sono le 5. No, io ho l'aula fino alle 6, ma neanche lo dico, no, naturalmente, soprattutto perché Roberto ha un treno. Avete, dei suggerimenti da riportare anche per sviluppare questo tipo di riflessione. Cosa? Vai. Mi interrompo un'ultima cosa, non so se è troppo tardi. No, no. Dal punto di vista puramente storico, no? Come? Dal punto di vista puramente storico. Sì. Se parliamo proprio di contorto, non so se è anche una sua sensazione, se ci ha pensato, se sua. Cioè, una volta per organizzare un contorto era molto più, ci voleva molto più tempo, forse sarà che c'erano degli strumenti molto più lenti, che era appunto una carta, no? Mentre adesso mi dà l'impressione invece che per organizzare un complotto con una false truth, una falsa verità, sia molto più semplice. Basti pensare, insomma, alla pandemia. La pandemia, quando è scoppiata, adesso aiutatemi, venitemi in aiuto, cioè mi pare febbraio 2020, sì, in quanto tempo, sì, si è organizzato questo movimento complottista contro il vaccino, contro, circa 2 anni? Beh, c'era già in realtà, cioè, la pandemia stessa, no, perché gli antivaccinismo c'era già. Però senza l'antivaccinismo, come dire, cioè, c'era già tutto un discorso antivaccinista, c'era già un network antivaccinista che è nato negli anni zero. Nel 2007 più o meno si può datare l'inizio dell'antivaccinismo moderno, che non è l'esitazione vaccinale di una volta, no? Perché comunque resistenze all'introduzione dei vaccini dal punto di vista popolare si sono viste anche nel Novecento e nell'Ottocento. Ma l'antivaccinismo moderno come network proprio nasce con la ricerca, poi la ricerca di Wakefield, questo medico inglese che poi si è scoperto che era completamente campato in aria, che collegava i vaccini all'autismo, ok? Questa cosa qui ha avuto come primo incubatore proprio i genitori di bambini autistici, che finalmente avevano una spiegazione prêt-à-porter di questa cosa inspiegabile del perché hai un bambino che soffre di un disturbo dello spettro autistico. Poi però si è espansa e quando in realtà è arrivata la pandemia c'era già tutto un discorso pregresso che ha inglobato la pandemia. Però è un discorso. Però è vero che oggi tutto è più rapido, cioè al di là dell'esempio. Esatto. Sì. Invece a quello attuale, che è appunto il mondo del digitale, che forse corre più velocemente il passavoce, no? Sì, beh, quello sicuramente, quello è poco ma sicuro, dopodiché quanto è lunga una storia dipende da quanto indietro tu vuoi andare, e io dimostro che QAnon in un certo senso comincia nel XII secolo. Perché ognuno può, perché comunque allora, la storia umana, cioè puoi andare a ritroso fino a che hai fonti, e quindi e rintracciare dei fili anche molto molto molto indietro. L'accusa del sangue contro le comunità ebraiche dell'Europa medievale, premoderna e anche, ma è arrivata fino al Novecento, comunque è già un prodromo di QAnon, perché l'abuso rituale satanico in fondo non è altro che un remake tardo novecentesco dell'accusa del sangue. L'accusa del sangue diceva che a ogni Pasqua ebraica venivano rapiti dei bambini cristiani che poi venivano dissanguati. C'è stata una tentazione di vedere qualche tempo fa di un altro libro storico su, diciamo, di racconto diciamo tempistico del problema dei complotti. Si ricordava che già nel secondo secolo avanti Cristo delle comunità cristiane diceva che sì. Sì, Norman Cohn nel ricostruire la storia dell'accusa del sangue fa vedere che all'inizio fu usata contro i primi cristiani e dopo il cristianesimo al potere la usa contro gli ebrei, quindi. Okay, ci va bene. Va bene, grazie a tutte e tutti. Grazie a te, grazie a te Roberto.